fare, l'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. 18 e 5 minuti, buonasera cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati, 800 24 0024, staremo insieme fino alle 20:30. Cominciate fin da subito a prenotare i vostri interventi per commentare le notizie, i fatti, le attualità di questa giornata, e poi oggi vi chiediamo anche di collaborare con noi, visto che domani è Ferragosto, una giornata da trascorrere sicuramente per chi può, in giro, in vacanza, in allegria, in famiglia, con gli amici. Allora ci sono un sacco di iniziative, musei aperti, musei gratis, è anche meglio, e allora chiamateci all'800 24 0024 per raccontarci che cosa succede nelle vostre città, quali sono le iniziative più belle. Io ve ne dico due o tre giusto per partire, per rompere il ghiaccio. Non so, a Riccione, musica dal vivo all'alba, appuntamento alle 5:30 del mattino in spiaggia, alla faccia dei limiti alla Movida. A Taormina ci sarà Rocco Siffredi che darà i consigli amorosi alle giovani coppie. A Pesaro è possibile andare a farsi la barba a casa di Gioacchino Rossini, l'autore naturalmente dell'opera Il Barbiere di Siviglia. 800 24 00 24, chiamateci, racconti più belli. Anche questa sera mettiamo in palio i biglietti per la mostra di Andy Warhol a Roma. Via! Sentite in musica sono le dolci parole di Bono, degli U2, che ha dedicato alla moglie. Parole dolci anche quelle, come sapete, che ha riservato per Matteo Renzi, un endorsement di quelli che contano. Oggi però Renzi si è beccato i fischi a Napoli da parte di un gruppo di manifestanti. Non bastano gli annunci, è quello che un po' gli rimproverano tutti, perché sicuramente Renzi di annunci ne ha fatti molti, sicuramente è già passato molto tempo dall'approvazione della riforma in Senato, un punto messo a segno a favore del governo. Adesso però sono le cifre economiche che non tornano a preoccupare. Così oggi le proteste di un gruppo di manifestanti nei confronti di Renzi a Napoli, il quale Renzi non rinuncia però a manifestare il suo ottimismo. Non rassegniamoci alla cultura della rassegnazione, dice. Usciamo dalla cultura della rassegnazione. Scenari inquietanti sul nostro paese, perché abbiamo fatto meno 0,2 nel secondo trimestre, oggi è arrivato il dato che meno 0,2 lo fa anche la Germania, e trovo tutti quelli che dicevano ah mamma mia l'Italia è in crisi che dicono la Germania è in crisi. Io farei a cambio volentieri in termini di dimensioni economiche con la situazione della Germania, che è sicuramente più forte della nostra, però voglio dirvi che non è la percentuale, lo 0, ma è il clima. Soltanto poche righe, ha scritto Bono degli U2, per congratularmi con te che stai rinsaldando la grande creatività degli italiani e una visione del futuro che include tutti. Siamo orgogliosi di vedere che il nostro paese è preferito alla leadership che si merita. Intanto abbiamo capito e scoperto che l'Italia è il paese preferito degli U2, forse qualcuno lo sapeva già, io non lo sapevo, ma anche chi se ne frega, forse sì o no, non importa. E questo è il messaggio scritto a penna di suo pugno da parte di Bono nei confronti di Renzi. Oggi il ministro dell'interno Alfano è stato a Lampedusa a testimoniare la vicinanza del governo nei confronti di chi è impegnato in prima linea nella questione degli sbarchi degli immigrati, e ha precisato un po' di concetti. Aveva detto così: io credo che tutti gli italiani siano anche parecchio stanchi di essere molestati e insolentiti da una esagerazione di Vucumpra per le spiagge italiane. Ecco, insomma, l'operazione Spiagge Sicure presentata così tre giorni fa da Alfano, che oggi ha ribadito: Vucumpra non è razzista. E io, fra l'altro, devo dire che si può essere d'accordo abbastanza sul fatto che Vucumpra non è razzista. Ecco, magari non è adatta a un ministro come espressione, ma questa è un'altra cosa. E poi ha parlato di ipocrisia nauseante sul tema Alfano, che sicuramente sta cercando di recuperare posizioni un po' in una competizione ideale, sicuramente con il centrodestra che è all'opposizione, PDL e Lega. Alfano, che poi però, insomma, ha detto: siamo impegnati, e questo è vero, ogni giorno anche nell'accoglienza degli immigrati, non dimentichiamolo. E noi siamo, come Ministero dell'Interno, impegnati ogni giorno sull'accoglienza, ed ogni giorno abbiamo a che fare con dei numeri, delle cifre che non hanno avuto requie dal punto di vista della crescita, proprio perché si sono moltiplicate le situazioni di crisi al di là del Mediterraneo. E quindi quello che noi vogliamo ribadire oggi è: da un lato, grazie alla Marina Militare, a tutte le forze armate, alle forze territoriali che sono state in campo, e dall'altro il fatto che noi non molliamo l'idea che sia l'Europa a dover presidiare la frontiera del Mediterraneo. Questo è ciò che noi vogliamo fare. È stato un termine giusto da utilizzare? Per me no, io non l'avrei utilizzato. È una cosa che le dà fastidio? È una cosa che le richiama? Mi pare di averle risposto. Alfano che se la prende con i Vucumpra è come una pornostar che invita alla castità. Nel senso che il ministro dell'interno gliene sbarcano 2000 al giorno, sì, sotto il naso, e poi si lamenta se vanno in spiaggia a vendere abusivamente. Innanzitutto chiediamo all'Italia di sospendere Mare Nostrum. Domani sono 300 giorni, 800 morti e 100 milioni di euro sbattuti via, con un rischio di tubercolosi e di Ebola che rischiamo di portarci in casa nostra. E l'Europa ci metta uomini e quattrini. E non può essere un ministro di centrodestra a permettere un'invasione del genere. Parola che esiste nemmeno nel vocabolario. Vucumpra è una parola che è stata creata ad hoc perché racchiude nel suo interno tutta una serie di stereotipi, tutta una serie di fatti negativi che caratterizzano una comunità. Oh, oggi ci ha chiamato in redazione il responsabile dell'Unione Italiana Giardini Zoologici e Acquari, in merito alle cose che ha sentito ieri l'altro in questo orario a Radio 24. Si parlava dell'opportunità o meno di tenere i delfini, gli animali negli zoo, con proteste veementi da parte di molti ascoltatori amanti degli animali o anche sedicenti animalisti. E Cesare Avesani, presidente di Wizza, ci ha tenuto a dire questo: gli zoo servono anche a salvare le specie protette che fuori da questi parchi naturali potrebbero anche morire. Sentiamo un'ascoltatrice che invece non era di questo parere, Maria. Gli animali vanno tolti dagli zoo e dagli acquari semplicemente perché non hanno commesso nessun reato. Vabbè, e tenerli, Maria, lì perché i nostri bambini li possano vedere è aberrante. Gli zoo sono un'altra cosa, è inutile che lei dice hanno 100 metri anziché 10 metri, è una gabbia, è un arresto domiciliare. Vabbè, secondo lei è una gabbia, Maria, secondo me no. Certo, non hanno commesso nessun reato. Mio figlio si guarda il documentario e mi ha chiesto: mamma, mi porti a vedere? Ma quelli che noi mangiamo hanno commesso reati, scusi. 800 24 00 24, e mi raccomando, aspettiamo le vostre chiamate nel momento proloco da parte di ognuno di voi, dalle vostre città, dai vostri quartieri, dai vostri paesi. L'iniziativa è di Ferragosto, gratis possibilmente, o low cost, alle quali tutti possono partecipare per godersi una giornata, mostre, mercati, sagre, fiere, tutto quello che volete. Abbiamo fatto degli esempi, musei aperti, abbiamo citato Riccione, Taormina, la Cocomerata di Firenze per esempio ci sarà a Ferragosto, a Villa Strozzi. 800 24 00 24, il racconto più bello, ma anche questa sera mettiamo in palio i biglietti per la mostra di Andy Warhol a Roma, tra poco. Si può fare l'attualità anche d'estate. Vieni bro, nigga, vu compra, come no nigga, vu compra. Ci sono quelli bravi, ci sono quelli furbi, ci sono quelli matti, ci sono quelli forti, ci sono quelli strani, ci sono quelli stanchi. Ci trovi nelle piazze, ci trovi nelle vie, ci trovi nelle strade, ci trovi pure al mare, camminare per ore con la voglia di fare. Chiamami VU, compra i tuoi ambulanti, dalle borse alle scarpe, le vestiti agli occhiali, la quantità. Quello che è strano ma staccato è pure illegale, ma devo stare attento, pronto a guardarmi le spalle. Sono clandestino, non voglio elemosinare, sopravviverò aspettando un lavoro migliore. Tutto ciò che vuoi non hai e poi ti piace, tutto ciò che vuoi non hai la puoi avere. Vedi pure a me l'unico l'originale, VU compra. E questa è la canzone dei VU compra, l'iniziativa originale a Loano, commerciante VU compra per un giorno, singolare protesta da parte di un commerciante che è andato sulle spiagge di casa sua a vendere abusivamente anche lui delle borse per fare una protesta. Noi lo abbiamo convocato qua questa sera, Giuseppe Pepe Perrone, buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera, buonasera. Dobbiamo chiamarla Pepe? Direi, chiamatemi come volete, non ha nessuna importanza, mi chiamano tutti Pepe perché sono un po', dico, peppato. Ecco, peppato, ecco, eh. Vedi che c'era. Chiamami su. Come vuoi, ecco, c'è una differenza. Come? Non è, non è, sì, importante il nome, l'importante è ciò che si fa, ecco. Cioè, infatti. Dimmi pure. Come, come ti è venuto in mente, Pepe, di fare questa iniziativa, cioè di trasformarti in venditore abusivo? Per un giorno. Potrei inventarmi tante cose, ma è stato semplicemente così, parlando con gli amici, con i colleghi, cioè, ma perché non andiamo a vendere anche noi? Cioè così, ma ci vai te, ci vado io, no, ci vuole un altro, no, ma io no. Vabbè ragazzi, ci vado io, provo io, vediamo cosa succede, ecco. Ma che giorno era? Un qualche giorno fa è stato? Era martedì o mercoledì scorso, non ricordo, sì, più esattamente, il giorno 6 mi pare, ecco. E niente, così ho provato, ho messo in un borsone un po' di giacche dell'Invicta, della Blau, ormai non voglio fare pubblicità per carità, un po' di aziende, sì, note, diciamola così, un po' di aziende note, sono andato in giro per le spiagge. Io ho uno stabilimento, gestisco uno stabilimento balneare da moltissimi anni, non ho voluto, cioè volutamente, andare nel mio stabilimento, sono andato nel paese vicino al mio, a Loano, dove nessuno mi conosceva, o a parte alcuni bagnini, quali mi hanno fischiato, mi hanno mandato via, io scappavo, come fanno questi, chiamiamoli VU compra, non mi piace neanche più di tanto, però tutti le chiamano così, sono dei poveretti che cercano di sbarcare il lunario. Ecco. Ma com'è stato vivere, adesso poi facciamo anche qualche ragionamento in più, perché tu hai il negozio, lavori sulla spiaggia, quindi conosci anche da tanti punti di vista questa situazione dei venditori abusivi, però com'è stato essere per un giorno sotto il sole? Hai venduto intanto qualcosa? O è stato solo un giorno? Non ho venduto nulla, perché io proponevo a prezzo pieno, non volevo fare sconti, sì, cioè, questa è merce originale, e la mia idea poi mi è nata, cioè, diciamo sul posto, ecco, cioè, signori, questa è merce vera, voi, voi dovete comprare la merce vera, e magari non qua da me, nei negozi, io non ho mai detto chi ero, cioè, non volevo fare pubblicità perché non è la mia intenzione fare, voi dovete andare a comprare nei centri autorizzati, nei posti dove realmente questa merce è giusto che sia venduta. Ma la gente come reagiva? Cioè, ti guardava, ma dicendo, credeva, ma questo cosa vuoi? Non mi credeva, mi prendevano tutti per pazzo. Tutti per pazzo, mi guardavano strani, io arrivavo augurando loro buone vacanze, buon mare. Quindi tu hai fatto proprio veramente, cioè, una giornata così, non è che hai, certo, fatto finta. Un pomeriggio, un pomeriggio. Non diciamo una giornata, siamo onesti, a me piace la sincerità, un pomeriggio. Mettersi nei panni del VU compra per un pomeriggio, quantomeno per un pomeriggio, ti ha fatto vedere le cose da un altro punto di vista rispetto a come la pensavi prima o no, non lo so. Diciamo che non è cambiato molto, io ho visto i visi delle persone che mi guardavano, uno di dialetto ligure mi ha detto, ah, niente, non cattemo niente perché cattemo desena, e io gli ho detto, mi hanno solo desena ma sono de borsi, perché io sono un ligure, cioè. Aspetta, questa ridicela un attimo, prima in dialetto e poi in italiano. Come? Questo signore mi ha detto: non cazziamo niente perché siamo di Genova, non compriamo nulla perché siamo di Genova. E io ho certo. detto: ma io che vendo sono di Borcio, perché sei comunque sempre un piccolo paese, ma è della Liguria. Quindi era una guerra, cosa. Diciamo, tra. Ma diciamo, non, lo so perché, non so perché mi ha detto così, perché c'è, perché forse c'è la nomea del genovese che è tirchio, che non è assolutamente vero, è semplicemente oculato. È una battuta, ma è un po' una realtà. Però, Giuseppe, a parte questo, insomma, tu hai voluto significare che cosa? Che questa forma di vendita sulle spiagge è però una, che cosa? Una concorrenza sleale anche nei confronti di chi fa le cose. Cose. E secondo me non è una anche cosa se tu hai sola, detto sono dei sono dei poveretti, cioè non te la prendi con loro. Ma ci mancherebbe, ma per carità, fanno la vita da bestie, fanno. Io ho visto, ti guardano male, ti cacciano via, no, non vogliamo, no, non forse io che sono bianco, bianco poi cosa vuol dire? Eri perché dopo queste esperienze in spiaggia sei hai preso colore. Ma sì, vabbè. Io non ne prendo molto perché sono un rosso, un ex rosso, perché ormai ho i capelli bianchi, non sono più rosso, ma quindi non mi abbronzo mai molto, comunque sono scuro, ma no, voglio dire, io ho una pelle differente, solamente una pelle di. Io sono anarchico, quindi per me non esiste una differenza di etnie, di persone, siamo tutti uguali, siamo tutti esseri viventi che cerchiamo di sbarcare il lunario. Però quindi qual è il punto che non va secondo te, la cosa che non funziona? Questa ordinanza di Alfano, per esempio, queste spiagge sicure, che ne pensi? Ma allora, le spiagge sicure, io non la vedo, cioè, va benissimo, cioè il giro di vite va comunque benissimo, ma non nei confronti di chi vende, ma di chi compra. Acquistare falso è un reato. Che tu punteresti il dito su chi compra e non su chi vende. Uno, su chi fornisce questi signori, queste persone, sì. Su chi produce, su chi li taglieggia, presumo, questo non ho elementi, ma presumo sia così, no? Cioè penso di non scoprire l'acqua calda, su chi li costringe anche, non tutti per carità, magari tenendogli, che ne so, il passaporto, per carità invento, io non ho elementi, però posso immaginare, non tutti per carità, su chi li aiuta, su chi gli tiene la merce per poi dargliela al momento giusto, magari pensando di fare un piacere, ecco, per carità, non con uno scopo, diciamo, di lucro. Senti Giuseppe, resta in linea con noi, abbiamo chiamato anche un'altra città, un altro caso, è quello di Rimini, abbiamo l'assessore all'attività economica e alla legalità, Jamil Sadegolvad, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. A Rimini perché c'è stata intanto qualche giorno fa una specie di rivolta di un centinaio di ambulanti contro le rigide ordinanze che voi siete a Rimini, volete far rispettare, fare le cose in riga, quindi diciamo le ordinanze, i limiti che ci sono, i divieti, evidentemente li fate rispettare, ma c'è stata una protesta e adesso voi però avete promesso di stringere ancora di più la cinghia, è così? Sì, beh, c'è insomma una strategia concordata in seno al Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, quindi con il prefetto di Rimini, con tutte le forze dell'ordine. Le forze in campo sono considerevoli, ma non da ora, insomma, grazie alla direttiva del ministro Alfano, che noi accogliamo ovviamente ben volentieri, ma già da inizio estate abbiamo messo in campo uno sforzo in termini di risorse umane, di agenti impiegati davvero importante. Ecco, ma questa protesta che c'è stata, com'è andata? Che è successo? Ma proteste, oddio, fanno parte dell'attività di contrasto all'abusivismo commerciale. Noi abbiamo. Cioè, credo che sia una delle prime volte, almeno 150 venditori ambulanti in marcia di protesta con dei cartelloni lì negli stabilimenti balneari di Rimini. A me non avevo mai sentito una cosa così. Ma questa è, diciamo, un po', come dico, una reazione a controlli che si fanno sempre più serrati, che riguardano, come dicevo, la polizia municipale innanzitutto. Perché voi li fate in maniera scientifica, com'è che operate? Ma guardi, la strategia, come si dice in questi casi, è da mare a monte. A mare è ovviamente con controlli in spiaggia da parte dei nostri agenti, a monte sia sulle centrali di rifornimento che negli appartamenti, nei luoghi dove queste persone si ritrovano, dove hanno anche i loro depositi di merce, sia contraffatta che non contraffatta, anche perché la norma in Italia, la legge, come dire, distingue in maniera netta anche le conseguenze che ci sono a seconda che uno venda merce contraffatta oppure non so, un semplice abbigliamento, delle sì. collanine, le conseguenze sono molto differenti, perché c'è certo. il penale per quanto riguarda la merce contraffatta e sono sanzioni amministrative invece per il resto. Ecco, perché ora, vabbè, siamo ad agosto, è ovvio, insomma, non è questo, ogni estate si parla un po' di questo tema prettamente estivo, però c'è stato anche l'annuncio appunto del ministro dell'interno, quindi è una cosa che va presa sul serio. Io mi sono domandato, perché per quanto mi riguarda il fastidio che possono arrecare i venditori ambulanti, anche parlandone con altre persone, insomma, è una cosa che non è così eccessiva, basta dire di no e se ne vanno. Altra cosa è il tema delle merci contraffatte, cioè per voi lì a Rimini la priorità è il contrasto, diciamo, dal punto di vista del reato economico, oppure lo ritenete una priorità per la sicurezza delle persone, per l'agibilità delle spiagge, per il decoro? Beh, un po' tutto quello che lei ha detto, perché sì. certamente c'è una concorrenza sleale nei confronti degli operatori commerciali che, come dire, onestamente fanno il proprio lavoro e che davvero sono in difficoltà, oltre che per il difficile momento economico, anche per questa, ripeto, per questa concorrenza sleale. In più c'è un tema proprio di sicurezza anche della nostra spiaggia, perché queste persone non sono semplicemente itineranti. In alcune tratti del nostro arenile, noi abbiamo 15 chilometri sì. di spiaggia Rimini, sì. in un tratto in particolar sì. modo, su 2 chilometri circa, proprio sono stanziali, loro mettono i loro banchettini e vendono. Ma, sì. Però voglio dire, ci sono stati dei casi, che ne so, di aggressioni, di reati, perché adesso io leggo che il prefetto vuole stanziare 120 divise al giorno tra carabinieri, poliziotti, vigili urbani, uomini della Guardia di Finanza. Ora, siccome sappiamo che spesso non ci sono i poliziotti per andare a fare le scorte o per contrastare reati anche più gravi, adesso che si trovino 120 persone per gli abusivi in spiaggia, sembra una cosa piuttosto importante. No, è una cosa importante, guardi, io le garantisco comunque che anche la sensibilità degli stessi turisti è cambiata molto negli anni, perché una volta veniva visto il fenomeno come folcloristico o poco più, adesso si comincia a notare anche una certa aggressività da parte degli stessi venditori, anche nei confronti e soprattutto nei confronti delle forze dell'ordine, perché non di rado queste persone si sono proprio rivoltate contro i controlli degli agenti di polizia municipale, di polizia di Stato. Questo ovviamente non è accettabile. Giuseppe è ancora in linea da Pietra sì, Ligure? Sì, certamente. Ecco, certamente. Tu che hai messo in scena questa singolare protesta, ti piacerebbe che anche a Pietra Ligure facessero come a Rimini? Ma dunque, sostanzialmente sono d'accordo col signore di prima, che non mi ricordo più come si chiama. L'assessore, sostanzialmente, sì. Sì, l'assessore, sono sostanzialmente d'accordo, senza arrivare a degli eccessi, diciamo. Io so peraltro per inciso che stamane nella sì. mia provincia c'è stato un incontro col prefetto di tutti i sindaci, credo, della zona, adesso non sono proprio certo, cioè, comunque il sindaco del mio paese c'era, perché me lo ha confermato lui, per prendere delle direttive nel senso circa quello di Rimini, ecco, grosso modo penso che sia. Io direi che bisogna cercare di colpire, secondo il mio punto di vista, come ho già detto prima, chi acquista, chi vende forse in maniera più blanda, perché tutto sommato, ripeto, in mezzo poi c'è anche il delinquente, cioè, ma ci sono anche dei poveri diavoli che fanno anche folklore, come diceva l'assessore prima. Ma questo vale anche, io mi domando, per esempio, ma vale anche per chi vende, non so, le bibite in maniera illegale o il cocco, per esempio, quelle cose lì? Sì. Ad esempio da noi c'è uno che vende i bomboloni, ma lui è regolare, cioè, rilascia anche lo scontrino. Io anche perché che fastidio dà uno che vende illegalmente il cocco sulla spiaggia? Non mi venite a dire l'IVA, queste cose qua, perché sennò stiamo impazzendo tutti. Quello è folklore, per carità, non nulla contro il venditore di cocco, ci mancherebbe, ecco, c'è sempre stato, è simpatico, per carità, fino a quando si limita. Poi è anche vero che molti venditori sono diventati insistenti, ma io ripeto, oltre a cercare di colpire le centrali di rifornimento di queste persone, oltre a cercare questo di, mi sembra sensato, sì, sì, ecco, mi sembra. Direi che la cosa più, ma anche perché non individuiamo dei punti nelle città di mare dove raduna parete delle specie di souk, bazar, dove queste persone vanno lì a vendere come una sorta di licenza, non so, cioè, io non sono un tecnico di quella roba lì, però insomma qualcosa di un'idea, ecco, così poi non so, più che reprimere, perché queste persone ci sono, cosa gli facciamo fare? Li rimandiamo al loro paese? Cosa facciamo? non so, anche un'altra idea. Ma anche questa è una cosa che, anche questa è una cosa che vorrei sentire l'assessore di Rimini. Una volta che li spostiamo dalle spiagge, eccetera, c'è ancora la state col VAD? Sì, sono qui. Vi siete posti il problema di poi di che fine fanno? Cioè, se trasmigrano una spiaggia più in là, e in realtà diciamo è un contrasto questo che è destinato a fallire, oppure no? Ma guardi, mi lasci dire questo, di carattere un po' più politico. Noi siamo una giunta di centro-sinistra. Per noi l'integrazione, la solidarietà è uno dei valori fondamentali che ispirano anche la nostra azione politica quotidiana. Però l'integrazione passa anche attraverso il rispetto delle regole. Quindi noi crediamo che certamente vanno date opportunità lavorative a queste persone, però non può essere la soluzione di fargli fare un po' quello che vogliono in spiaggia, come dire, il rimedio diciamo alle loro difficoltà. La valvola di sfogo di tutto questo. Va bene, va bene. Grazie, bene. Grazie allora all'assessore di Rimini, ma anche al commerciante di Pietra Ligure. Pepe, cos'ha in testa? Qualche altra avventura simile? Cioè, a me le cose mi vengono così, ma... Va bene, va bene. Grazie, grazie. E alla prossima. Ecco, cioè, alla prossima. Buon lavoro. Buona estate a tutti, Borsa. Potrai correre il sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. L'attualità, anche d'estate. 800 24 00 24, iniziamo allora a sentire i vostri interventi, cari ascoltatori, e mi raccomando, non dimenticate il momento proloco. Vogliamo tutte le iniziative più belle che, di cui siete a conoscenza, che si svolgeranno a Ferragosto nelle vostre città, musei gratis, iniziative, insomma, per divertirsi domani. C'è anche in palio un piccolo premio. Giulio da Roma, buonasera. Buonasera, buonasera Alessio. Eccoci qua. Io volevo parlare un attimo a favore degli acquari in generale. Sì. E naturalmente con le dovute cautele, perché ci sono acquari e acquari, ci sono quelli che sono delle tinozze indecenti e ci sono poi quelli tipo quello di Genova o quello di Sydney, in cui i pesci possono nuotare con grande libertà in spazi rilevanti. Ma soprattutto volevo portare una testimonianza, sì, diretta mia personale, di alcuni, potrei dire, incontri ravvicinati di terzo tipo che ho avuto con dei pesci o dei mammiferi, sì, in acqua. Il primo è stato, ho avuto tantissimi, io ho barato poco fa con la collega che mi ha chiesto l'età involontariamente, perché non sentendomi molto più giovane degli anni che ho, ho detto che ne ho 76, in realtà ne ho quasi 79, ma mi ha, cioè, girato il 9 col 6. Però sì, per dirci che cosa, Giulio, lei va ancora in mare, va in sì, sono ma cosa fa, le immersioni? Ho più di 1250 immersioni, sì, soprattutto nei mari tropicali. E la prima esperienza strana mi è capitata a Sharm el Sheikh. In realtà in quell'occasione non facevo immersione, perché c'era una gita organizzata in un paesino dei pescatori al nord di Sharm, sì, dove c'erano due fratelli. Vabbè, noi siamo molto felici delle sue vacanze, però non ce le racconti tutte. No, dicevo appunto per l'incontro che ho fatto con un delfino. Questo delfino era richiamato per questo giovane disabile, pescatore disabile, sì, che con un fischio faceva avvicinare dal mare aperto, quindi non era un delfinario, era mare aperto, il delfino si avvicina e tutti quanti lo possono vedere, ammirare mentre fa evoluzioni. Il ragazzo, avendo saputo che io sono cieco, mi ha spinto più avanti nell'acqua, indicandomi che potevo, mettendo la mia mano sul dorso del delfino, quindi l'ho potuto toccare, giocare con il delfino, lui mi ha spinto ancora, mi ha fatto capire che potevo anche nuotare con il delfino. Io gli ho preso la pinna dorsale, che è molto dura. Vabbè, insomma, Giulio, si sa che i delfini, lei ha avuto la fortuna, io no, di poterli toccare, di poterli, insomma, avere da vicino, e questo è quello che poi si riproduce anche negli acquari. Ma naturalmente poi lei dice bisogna fare delle differenze, ci sono acquari dove c'è molto spazio e questo contatto tra l'uomo e il delfino si ripropone, credo positivamente, acquari dove sono delle pozze forse troppo piccole, e queste non vanno bene sicuramente. Poi non lo so se lei, in base alla sua esperienza, non mi sembra però che se la prenda particolarmente con chi rinchiude gli animali in un acquario. No, questo è importante. Grazie, ancora... buona serata, grazie. No, adesso avremo sicuramente una sequela di telefonate anche su questo, quindi andiamo anche a parlare con qualche altro ascoltatore. Lino da Arezzo, buonasera. Buonasera. Prego. Saluto tutto lo staff di Radio 24. Grazie. E gli ascoltatori. Mi dica. No, ha chiamato lei, Lino, cosa sì, voleva raccontarci? Ho chiamato, volevo commentare un attimino questa riforma che ha fatto Renzi, la riforma del Senato. Sì. Beh, a me sicuramente non mi piace e a molta gente non piace, perché è partito in quarta dicendo che i nuovi senatori non avevano stipendio, non avevano potere, non avevano niente. Invece? Siamo arrivati al momento, c'è lo stipendio e sarà buono, sembra che sia buono. No, non c'è lo stipendio, non c'è lo stipendio. Sì, comunque lo stipendio c'è, i soldi arrivano, lo chiami come vuoi. No, no, arrivano. Lino, lo stipendio non c'è, al momento lo stipendio non c'è. È passata in prima lettura al Senato e non c'è indennità per i senatori, c'è immunità. Ma non c'è indennità, quindi su questo è male informato. Però non ho capito, secondo lei non è, perché su questo forse non è informato, è sbagliata la riforma, anche se magari lei non la conosce benissimo, o, no, o è inutile la riforma? Perché io oggi per esempio è stato criticato a Napoli perché hanno detto con la riforma del Senato non si mangia, e a Napoli non si mangia. Sì, infatti questa non ha risolto problemi. Comunque, è questo. Va bene Lino, grazie, buona serata. Andiamo ad Alessandro dalla provincia di Rovigo. Buonasera. Buonasera. Niente, io volevo commentare un po' il fatto che viene dato tantissimi soldi a Conte, io non metto in discussione che lui li valga o meno, però tenete... Quanto gli viene dato? Lei è aggiornato? Ma sentivo oggi, mi sembra attorno ai 5 milioni di 4,9 euro. 4,9 milioni forse, sì. Vabbè. Beh, non è poco, non è poco in effetti. Ecco, pare che ci sia una cordata di sponsor per arrivare a questa cifra, perché la federazione non credo che potesse arrivare a questo stipendio. Sì, io sono d'accordo con Renzi che i funzionari pubblici non dovrebbero guadagnare più di molto. Ecco, comunque volevo solo segnalare queste cose. Che ah, cioè lei vede Conte come un funzionario pubblico, in effetti lo è, certo, questo è anche vero. Questo è vero. Va bene Alessandro, ma il calcio ha deroghe su tutto, cioè tutto vale, quello che vale per il resto del mondo, per il calcio non vale niente, anzi vale la rovescia. Grazie, buona serata. Anch'io comunque penso che siano tanti 5 milioni di euro per un allenatore di una nazionale di calcio. Achille dalla provincia di Pavia, buonasera. Buonasera, grazie di avermi fatto intervenire. Volevo solo dire due parole sulla questione dei Vucumprà. Sì. Da una parte un appello accorato, lasciateceli, sono una nota di colore. Io ci sono cresciuto fin da bambino, insomma, con questa presenza sulle spiagge. E poi non ritengo che siano un problema così grave. Semmai è grave chi li controlla, chi li rifornisce di merce e con tutto quello che ne segue. Non è che danno un danno all'economia o ai negozianti della zona, anzi, il problema. Ma probabilmente è che... guardi, qualche negozio in prossimità delle bancarelle degli ambulanti o di dove si posizionano, può darsi che ne possa anche un po' risentire. È vero che si tratta di commerci diversi, perché gli ambulanti vendono cose a pochi euro. Per il resto poi sono abbastanza d'accordo anch'io con lei. Ma lei in che spiaggia andava da ragazzo? Ah, dalla Liguria all'Adriatico, insomma, forse sull'Adriatico perché, sono un filo più organizzati. Perché dicono che adesso invece sono molto più insistenti. Lei è andato al mare quest'estate? Io sono andato al mare e non li ho trovati insistenti, li ho trovati come dei cani bastonati, con molto meno merci, e forse si è fatto semplicemente un favore a qualche grosso multinazionale che si preoccupa della contraffazione, non rendendosi conto che chi compra in spiaggia non va a comprare nei negozi in via Monte Napoleone o in centro Parigi, insomma. È un prodotto diverso con una clientela completamente diversa. È un pezzettino di sogno che ci tolgono anche questo in quest'estate di crisi, mi sembra che non sia la risoluzione dei problemi. È un modo originale anche per vederla. Io avevo, diciamo, detto una cosa simile a proposito, non so, del venditore di cocco. Mi verranno a dimostrare che non va bene, che diciamo non paga le tasse o che non rispetta le regole igieniche, però insomma mi unisco a lei, non levatemi il venditore di cocco sulla spiaggia, perché altrimenti cosa ci resta? Andiamo con Matteo da Rimini, buonasera. Ah, buonasera, ho sentito un attimo fa questo ascoltatore che parlava come se queste persone fossero quasi dei mezzi disperati, eccetera. Io chiamo proprio da Rimini e ho visto l'abusivismo da una vita. Sì. Ho due attività commerciali e prima di tutto quei cosa vende lei? Come? Cosa vende lei, Matteo? Io ho un negozio di abbigliamento e un negozio dove vendo articoli in pelle. Ma vicino al mare? Sì, sì, proprio sulla passeggiata. Quindi lei sente un po' la concorrenza sleale di chi vende come abusivamente? No, ma certamente, sì. Oltretutto questa gente qui, quelli che vendono falsi, sono in pochi alla fine, ma c'è un sacco di loro che vendono roba normalissima come c'è io in negozio. Ma dove la comprano sta roba? Questa è la cosa incredibile. Lei che avrà dei suoi canali di approvvigionamento, dove la comprano? Ma certo, io quando vado a comprare la mattina, dove vendono la roba in pelle, vedo che ce ne sono diversi di loro che vanno, diversi, e la sera dove vado a comprare l'abbigliamento, stessa cosa. È contento dell'iniziativa, penso di sì, della sua amministrazione, no? di Rimini e dei controlli, ma riescono ad arginare il fenomeno oppure no? Assolutamente no. No, ecco, infatti, quello che sospettavamo un po' tutti. Vero. Cioè, il fatto è questo, dagli anni 80 l'amministrazione di Rimini non ha mai fatto nulla per contrastare questo fenomeno, sin dall'inizio, in maniera efficace. Però adesso non mi va dagli anni 80, parliamo del presente, ci sono delle iniziative, il prefetto ha annunciato 100 uomini in strada, Roberto, sì, ho capito che è cominciata negli anni 80, però quello che è successo 30 anni fa non si può tornare indietro. Oggi già da qualche anno Rimini annuncia almeno delle misure nel nostro presente di oggi. Io le ho chiesto se queste misure servono oppure no. Mi sembra che lei abbia risposto di no. Assolutamente a nulla, anche perché come oggi devo soggiornare, il 18 d'agosto sembra che finiscano. Leggevo una parola del sì, che il foglio di via funziona, che ne hanno già fatti 4 ultimamente. C'è un'accelerazione adesso e poi naturalmente dopo, passata l'onda del Ferragosto, si tornerà ad abbassare la guardia, probabilmente sparpagliando di più gli uomini della guardia di finanza, dei vigili, in altri luoghi dove probabilmente servono. Grazie anche a lei. Andiamo con Edoardo da Macerata. Sì, pronto. Buonasera. Buonasera, senta, io la quale mi sono recato a comprare su tipo questi OLED importanti, non so le marchio, della zona del Cassetete, ho comprato un paio di scarpe valori sui 200 euro, dico vabbè me lo metto, mi dà fastidio quello che è, tiro, apro un po' gli adacci, tiro fuori, vedo la linguetta Made in Vietnam. Adesso mi dico, chi è che vende la roba più contraffatta? Quelli che hanno i marchi grossi o questi ragazzi che stanno vendendo i prodotti? Però Made in Vietnam, scusi, ma non è vietato, cioè non è che detto che sia contraffatto. Ok, ma io sto comprando un marchio importante, una marca importante, la pago 200 euro e mi trovo che è Made in Vietnam quando non è Made in Italia. Magari lei dice le borse contraffatte degli ambulanti per strada sono fatte da italiani. Questo anche è possibile, Edoardo, chi lo sa. Grazie, buona serata. 800 24 00 24, mi raccomando, anche con gli interventi pro loco, vogliamo le iniziative dalle città, però non state chiamando molto su questo, per la giornata di domani, in Ferragosto, iniziative gratis, musei aperti e quant'altro. Ci facciamo una pausa, torniamo tra poco. Si può fare l'attualità anche d'estate. Forever and ever. Oh, we can be heroes. anche se può sembrare lontano, perché mancano più di 20 giorni, 25 giorni alla riapertura delle scuole, c'è un tema che riguarda le scuole, che poi è classico ad agosto, perché succedono sempre nel mese di pausa le cose più strane. Scuole senza preside, l'appello dei dirigenti che sono pronti a lavorare gratis. Ed è per questo che noi gli abbiamo dedicato Eroi per un giorno di David Bowie. Abbiamo convocato uno di questi dirigenti scolastici, Rosario Coccaro, dirigente dell'Istituto Comprensivo Romano di Eboli. Buonasera, benvenuto. Buonasera a lei, Rosario Coccaro. Coccaro, me l'avevano anche detto, avevo sbagliato io. Senta, ma è esagerato il titolo o è così? Cioè, all'appello dei dirigenti, le scuole che non possono rimanere senza presidi, adesso ci spiegherà perché, andate in pensione, manca il turnover, non ci sono i concorsi, non lo so, ce lo spiega lei. Barò dice, noi non vogliamo lasciare le nostre scuole senza dirigenti, quindi ci facciamo avanti. Il problema è questo, in Campania, ma non solo in Campania, sì, anche in Toscana e in Lombardia, il concorso per nuovi dirigenti è stato bloccato dalla magistratura per delle irregolarità nelle commissioni. Quando è successo questo? Questo in Campania è successo nel mese di marzo. Noi, io ed altri avevamo chiesto la proroga al direttore generale Buscetti. Perché lei dovrebbe andare in pensione a settembre per raggiunti limiti di età. Appunto. Però concorso bloccato. E ce l'ha negata. Dunque, fatto nuovamente, in Campania ci troviamo, ma anche in Toscana, cioè in Toscana 104, in Campania 95, circa 100, sì, 100 scuole senza dirigenti scolastici. E il direttore generale si orienterebbe a nominare il reggente, ossia un collega che ha già un'altra scuola, magari dislocata su più plessi distanti fra loro, avrebbe anche un altro istituto. Altre grane, insomma. Ecco, è conclamato che quando c'è la reggenza, l'istituto della la scuola che è data reggenza viene trascurata, ci si va una o due volte a settimana perché si ha la propria scuola altrove. E questo significa lo sbandolo, il caos, viene compromesso il diritto allo studio qui in Campania per 100.000 studenti. Dinanzi a questo cosa diciamo noi? Bene, il concorso è stato bloccato, c'è una inefficienza della pubblica amministrazione, una responsabilità, perché una sua diretta emanazione, le commissioni, insomma, ha operato all'insegna della poca chiarezza. Dinanzi a questo, per autotutela, chiediamo alla pubblica amministrazione, alla direzione generale, che consenta ai presidi che sono stati già in quella scuola precedenti, sì, che si fermino fino a che il concorso venga sbloccato, come dire, traghettare la scuola verso le nuove mani e il nuovo dirigente che legittimamente subentrerebbe. Ma qui casca l'asino, cioè siete disposti a farlo gratis, come si legge in questo appello? Oppure... e molti altri miei colleghi, io l'ho fatto la richiesta, l'ho dichiarato anche per iscritto al Ministero, sono disponibili a farlo gratis. Cioè lei dice vado in pensione, prendo la mia pensione regolare, però continuo per qualche mese perché questa situazione è intollerabile. Si dovrebbe sbloccare per ottobre, allora sarebbe veramente paradossale andare a una reggenza per due mesi, arriva qualcuno che non sa dove mettere le mani, è bene che ce le metta chi ce le ha messe per 5, 10, 15 anni, non so quanto, e poi arriviamo appunto alla nuova dirigenza. Noi abbiamo l'impressione che insomma, ecco, la scuola pubblica in questa maniera viene screditata, perché se è scuola pubblica, è scuola di tutti i cittadini, deve funzionare a pieno regime. C'è un'efficienza della pubblica amministrazione, autotutela troviamo la soluzione. Oppure c'è è un ennesimo evento di mancata governance della scuola pubblica, perché l'autonomia è stata un'autonomia un poco mancata a metà, e quando vengono fuori questi eventi allora si rimane lì a chiedersi, ma allora vogliamo farla veramente funzionare la scuola pubblica o vogliamo smobilitare? Beh, sicuramente se il ministro Padoan sa di questa cosa della reggenza, e sicuramente lo saprà, non sarà totalmente contrario, perché è un modo poi per risparmiare anche banalmente. E questo, vabbè, questo lo sappiamo benissimo. Ma quanti sono quelli nella sua stessa condizione? In Campania, se abbiamo detto, siamo 100. Ora che siano disponibili a lavorare anche gratuitamente, parliamo di 2-3 mesi, credo che tutti coloro come me che avevano chiesto la proroga e l'hanno avuta negata sarebbero disponibili in tal senso. Io ne ho contattati quelli che sono intorno a me, sicuramente siamo 10-15 disponibili in tal senso, ma gli altri, perché la campagna è molto grande, quindi che hanno chiesto la proroga sicuramente sarebbero disponibili anche. Che vedete, cari ascoltatori, che noi che pensiamo sempre male dei dipendenti pubblici, invece c'è qualcuno ogni tanto che dice, ma essere innamorati del proprio lavoro è una fortuna. Farlo, perché poi, dottore, è questo che fa la differenza. L'opera egis, dico ai miei docenti, quello che dobbiamo fare per legge, e ci pagano per farlo, e dobbiamo farlo. Il valore aggiunto è quello che fa la differenza. Senta, ma un'altra cosa, la sua scuola dal punto di vista delle quattro mura, come sta, dell'edilizia scolastica? Perché c'era stato questo grande annuncio, piano di miliardi di euro, però ho letto che sta arrivando poco. Questa nostra scuola, Giacinto Romano di Eboli, che dirigo da 12 anni, adesso, dice il sindaco della nostra città, è diventata la prima scuola della città, una scuola a 5 stelle. Perché? E siamo riusciti anche a mettere mano alle strutture, con una gestione oculata dei pochi finanziamenti che il Comune ha, come affidando a licitazione privata di ditte di mia fiducia e di fiducia del sindaco i vari interventi. Abbiamo realizzato un'aula magna bellissima, insonorizzata, climatizzata. Quindi insomma, non avete almeno voi questo problema, che hanno altre scuole dove appunto pare che però questi fondi promessi, questa cabina di regia sull'edilizia scolastica, insomma, stenti un po'. Sì, stenta a partire. Ma anche perché, dottore, noi assistiamo, ecco, nella scuola pubblica, io di questo poi farò anche oggetto di un'altra comunicazione, cioè praticamente noi assistiamo a uno sperpero di denaro pubblico. Nella scuola pubblica lavorano, come sa, questo è un altro capitolo, è un'altra storia, insomma, i lavori socialmente utili, ex. Dunque io ne ho tre nella mia scuola e ogni mese per questi dipendenti ricevo dal Ministero un finanziamento di 7.200 euro che pago per loro. Sì. Poi c'è stata tutta un'avvertenza, il contratto si è interrotto il 30 di marzo, erano in mobilità, hanno bloccato, hanno fatto sciopero, hanno firmato un accordo e quindi per i mesi di aprile, maggio e giugno, che erano rimasti scoperti, il Ministero mi fa un finanziamento. Sì. Signori miei, per tre mesi mi fa un finanziamento di 51.000 euro. Io per tre mesi di norma ne spendo 21, 3 per 7, 21. Mi sono scappati più soldi per una volta, che è successo? Sono scappati più soldi, ma quello che è grave, dottore, che quando è venuta la cooperativa dei lavori socialmente utili per firmare il contratto, voleva farmi firmare il contratto per 51.000 euro. Dico, ma non se ne parla proprio, io ho acquistato e pago quello che hanno fatto. Vabbè, ma questo però è stato un errore stranamente in quel senso lì, cioè sono arrivati più soldi. Beh, insomma, ma com'è finita adesso con questi soldi in più? Io questi volevano farmi fare un contratto in cui dice, vabbè, ormai lei fa lavare. No, ma lei che cosa ha fatto? L'ho firmato, io firmerò solo per quello che ho acquistato. E il resto lo restituirà, sarà un'impresa impossibile. Lo terrò io come credito per fare altre cose. Va bene, grazie Rosario Coccaro, preside di Eboli. Avete capito qual è la notizia, staremo a vedere come andrà a finire. Grazie anche a lei, buona estate. 800 24 00 24 andiamo con Sergio che chiama da Treviso. Buonasera. Dunque io adesso mi trovo un po' in difficoltà perché di fronte all'argomento che avete appena trattato mi sento un po' a terra terra, cioè volevo parlare a proposito dello stipendio di Conte. Sì, abbiamo parlato di scuola, non è che abbiamo parlato di astrofisica. No, però insomma mi sembra che siano due piani un pochettino diversi. Comunque quello che volevo sostenere è che, contrariamente a quanto si sente dire da molti ascoltatori in questi giorni, e da questi anche qualche giornalista che secondo me dovrebbe essere un po' più informato, volevo solo far sapere che mi risulta che la Federazione Italiana Gioco Calcio sia una istituzione privata e non pubblica, per cui non si può definire il CT della Nazionale Italiana un dipendente pubblico che deve essere assoggettato ad un tetto massimo per quanto riguarda lo stipendio. Ma se è privata, di chi sarebbe proprietà? Beh, è una federazione composta dalle varie società di calcio, che sono enti privati. Sì. Non hanno niente a che vedere con lo Stato, per cui la federazione limita lo stipendio a, mi sembra, 1.700.000 per il CT, se non sbaglio, no? Mi viene riconosciuto questo. Poi per quanto riguarda la cifra, non lo so, 1.700.000, ma di chi sta parlando? Di quale CT sta parlando? Dell'eventuale eventuale prossimo CT della nazionale. 1.700.000, io avevo letto cifre diverse, di più, però adesso la notizia, cioè? Ma ho letto 4, ho sentito 4.900.000, anche sì, l'ascoltatore aveva letto però, così, però, ma poi ci sono gli sponsor, andiamo. Adesso stiamo a vedere perché è tutto troppo caduto troppo in fretta. A me risulta 1.700.000 che viene dato dalla federazione, la differenza per arrivare ai 4.500.000 viene data dagli sponsor, sì. Che sono aziende private che utilizzano l'immagine, il nome di Conte per promuovere la propria azienda e il proprio marchio. Fa parte del mercato. Comunque guardi, che sia pubblico o che non sia pubblico, quando si paga uno stipendio così, il tema c'è sempre, no? Perché chi lo paga poi quello stipendio? Lo pagano gli sponsor. Gli sponsor sono gli introiti, da dove li prendono? Dagli abbonamenti degli appassionati di calcio in TV o dai biglietti delle partite, che guarda caso aumentano ogni anno sempre di più. Quindi alla fine insomma, lo stipendio a Conte glielo paghiamo comunque noi appassionati di calcio, per cui il tema che siano tanti 5 milioni c'è lo stesso, io credo, per quanto mi riguarda lo penso, poi che sia pubblico no, adesso io su questo non sono in grado di rispondere dal punto di vista della personalità giuridica della FIGC. Lei ha posto un tema che probabilmente ha un suo fondamento, le piace se la dico così, Sergio? Com'è? No, dico, lei ha posto un tema, ho detto che ha un suo fondamento, cioè la personalità giuridica della FIGC, io adesso non lo so quale sia. Quindi, beh, a me questo risulta, potrei sbagliare. Va bene. Grazie. Cosimo da Brindisi. Anzi no, mi sa che dobbiamo andare subito sul giornale radio. Cosimo, mi ero distratto, abbiamo le informazioni, il giornale radio, poi torniamo subito dopo, anche con il suo intervento. A dopo. Sentirsi con papà senza santi da pregare, si può fare. Si può fare l'attualità anche d'estate. 800 24 00 24, 19:15 minuti, cari ascoltatori, riprendiamo la diretta, riprendiamo il filo con i vostri interventi fino alle 20:30 e già che ci siamo inseriamo in corsa anche un personaggio della settimana, vada a indovinare, e mettiamo in palio come sempre un piccolo premio. Allora questa sera il personaggio della settimana è il primo indizio, già che ci siamo, visto che è proprio il cuore dell'estate, diciamo che è anche un po' un personaggio dell'estate, e il primo indizio è che è molto spesso in prima pagina. Di protesta nei confronti di Matteo Renzi, presidente del Consiglio, oggi in visita a Napoli, a Reggio e poi in Sicilia. Qua era a Napoli le proteste da parte di queste persone. Momenti, la canzone degli U2, dolci momenti, dolci parole, quelle che in questa canzone Bono Vox degli U2 dedica alla propria compagna, e sono parole dolci quelle che ha scritto anche a Renzi, che ha ricevuto questo endorsement da parte del leader della band di rock forse storica più importante ancora in vita, diciamo in funzione, no? Nel mondo. Renzi, amato dalle grandi rock star e contestato dal popolo. Renzi che mantiene la sua il suo ottimismo. Non dobbiamo cedere alla rassegnazione, ha detto oggi ancora a Napoli. Usciamo dalla cultura della rassegnazione. E anche, permettetemi di dirlo, la classe dirigente del Mezzogiorno, ci siamo detti in prefettura l'altra volta, dalla cultura della delega.

che quando torni becca la città, tutto finirà, mannaggia. E questa sera il nostro ombrellone lo andiamo a piantare sotto casa di Philippe Daverio. Buonasera. Buonasera a voi. Non so se si trova a casa o in vacanza o altrove. Siamo Io venuti in vacanza. In vacanza, no, non sotto casa, ma insomma nel luogo di vacanza dove si trova Philippe Daverio. Perché questa sera vogliamo in questo spazio chiedere insomma a lei se ci dà una mano così per orientarsi. Domani è Ferragosto, ci sono i musei aperti, ci sono tantissime cose meravigliose da vedere. Sarebbe bello che lei ci desse un dove andrebbe Philippe Daverio il giorno di Ferragosto a vedere qualche cosa, magari che per stupirci ancora di questo nostro paese, magari gratis, così. Ma o anche il paese no. È tutto da stupirsi, onestamente. Basta andare qua a 6 km da dove mi trovo io, al Museo Archeologico di Tarquinia, e uno vede un museo che non esiste in nessun'altra parte del mondo. Le tombe etrusche, tra l'altro. Sì, cioè, l'Italia è piena di realtà minime, ma dal nord al sud, cioè in fondo se uno va sull'Isola Bella a fare un giro di Palazzo Borromeo vede una cosa che non può vedere da nessun'altra parte del mondo. Quindi già siamo a due, ascoltatori, segnatevele queste. Se va a fare un banale giro fra Sirmione e i dintorni, va a parlare con gli antichi, con la poesia latina addirittura. Cioè, perché si parla con la poesia latina se si va a Sirmione? Beh, da quelle parti lì che Catullo si è messo. Io sono un po' ignorantello, no? Ogni tanto. Sì, Catullo passava da quelle parti lì. Catullo, certo. E ci sono ancora le atmosfere, ci sono ancora le vestigia romane in pieno Lombardo-Veneto. Qualcosa sul sud, però, perché abbiamo fatto un po' di centro, un po' di nord. Il sud è meraviglioso quanto disordinato, non raccomando tanto i musei perché è un po' duro andarci, ma attenzione, un pezzo fondamentale per la vita dell'essere umano è il Museo Archeologico di Napoli, oppure Capodimonte, cioè sono luoghi imprescindibili, ma addirittura direi anche il profondo sud, cioè sono i musei del meridione, cioè se si discute sulla questione dei bronzi di Riace o meno. Ma il museo di Reggio Calabria contiene delle cose che se non le hai mai viste fa peccato non andarci. Ma è giusto fare i musei gratis? Perché ora non so domani quanti saranno quelli che in queste occasioni, no, per incentivare un po', si fanno i musei gratis. Si dice, belle cifre, no? Funzionano, però poi se facciamo così non lo so. Ma con le tasse che paghiamo forse i musei dovrebbero essere gratis. Almeno i musei statali, quelli lì. Ma sì. Io penso che ci siano tre cose gratuite assolutamente obbligatorie in un paese come il nostro, che dovrebbe essere la sanità, l'educazione, la scuola pubblica e il museo. Poi è vero che se non si paga la gente ci va ancora meno, ma non è detto, magari uno ci mette dentro il naso e poi si converte. Senta, a proposito di, magari poi qualche altro suggerimento in chiusura ce lo dà, a proposito di bellezze e di perle insomma italiane, questa cosa dei bronzi di Riace che è riuscito diciamo quasi a mettere d'accordo almeno a metà lei e Sgarbi, cioè su questo lei ha detto, ma in fondo questa volta Sgarbi non ha detto proprio una cavolata, almeno ma una... no, fatevi viaggiare, cioè da noi ogni sovrintendente è convinto di essere proprio padrone delle cose. Ogni museo è padrone delle cose, cioè un padrone più vasto, basta usare la parola inglese taxpayer, che è il contribuente. Cioè, noi abbiamo dimenticato ormai le monarchie, no? Non c'è più un re padrone, in teoria il cittadino è un po' padrone. Ma chi decide in questo caso veramente sul fatto che i bronzi si possano spostare, almeno uno dei due, come ha proposto lei? Che devo dire che è geniale come idea, non perché ce l'ho qua adesso, perché è un modo anche per, come dire, per essere salomonici e per dire questo è uno, però sappiate che l'altro sta a Reggio Calabria. Esatto, è quello che la proposta che ho lasciato io, perché mandate lei, lasciate l'altro a casa. Ma se volete vederne di più andate là, come quando c'è scritto in internet, if you want to know more, no, lasci l'indirizzo. Ecco. Un po' dovremmo fare un po' di promozione per questo paese disgraziato. Ma quindi appunto alla fine chi decide? Cioè il ministro? Può decidere il ministro, può decidere per interno. Quindi Franceschini, se non si fa questa cosa è perché Franceschini non lo vuole fare. Non lui ha un comitato settore che gli dà un'opinione, ma che è non vincolante, il ministro Pozzettino. Ma anche secondo lei Franceschini è uno dei migliori ministri dei beni culturali? Che si dice spesso. Tra la... No, ma l'aspetto ce l'avrebbe, onestamente. Però fisicamente, physique du rôle. Sì, no, anche poveretto non sta molto bene di salute, ma questo non è grave. Bisogna vedere cosa farà. Cioè, noi gli diamo sempre a tutti il miglior benvenuto. Devo dire che gli ultimi non hanno proprio brillato molto, sono state anche persone molto per bene, ma questo mestiere dove un po' di conoscenza tecnica fa bene. E l'ultimo ministro che mi ricordo con la caratteristica da ministro è stato Antonio Paolucci, perché veniva dalle sovrintendenze, cioè sapeva l'argomento di cui si occupava, perché è complesso la cosa. Quindi Franceschini lo mette un po' sotto. No, ma Franceschini se studia ce la fa, perché la buona volontà. Ma è possibile che ogni volta abbiamo i ministri che studiano, quando poi hanno finito di studiare se ne vanno e siamo puntati da capo. Vabbè, questo è un destino. Una tramberia, perché non vogliamo i tecnici. Ora, in alcuni casi i politici sono più importanti dei tecnici, sono pienamente d'accordo, ma in alcuni casi i tecnici potrebbero dare una mano. Vabbè, questo è un connubio tra politici. Io dovrei mettere la scuola consolare del ministro e metterne due. Senta, un'altra cosa, lei che giustamente, credo, secondo me, ma insomma secondo molti, dice insomma l'Italia dovrebbe andare a trazione turistica sempre di più. Questa polemica sul fatto che a Venezia ci sarebbero troppi turisti per bocca del sottosegretario Borletti Buitoni, quindi inserire un ticket per esempio per limitare l'afflusso dei turisti, mordi e fuggi, lei dice. A Venezia non c'è un piano di comunicazione per i turisti, i quali vengono consumati come i bovini quando li si macella per farne carne trita. Questa immagine devo dire che in effetti si presta. A Venezia, allora, se uno va appena fuori dai quattro quartieri noti non c'è neanche un turista. E i turisti vanno tutti negli stessi posti, vanno tutti a vedere Piazza San Marco, vabbè vadano anche a vederla, ma forse se ci fosse un'indicazione più articolata di ciò che gli può dare la città, anche il turista si muoverebbe diversamente. Non è colpa del turista, la curiosità è un dato oggettivo, lui è pieno di buona volontà, ha già speso la benzina per arrivare fino a lì, dico gli portano anche via un fracco di soldi se va a bersi un caffè. E dategli qualcosa in casa. Quindi più che pensare di tartassare o di filtrare i turisti in questo modo con la gabella, ci vorrebbe più comunicazione, più umanità, un po' di umanità. Ma chi dovrebbe fare questa gestione dei flussi del turismo, delle figure specifiche? Lo dovrebbe fare il sindaco di Venezia, lo dovrebbe fare la regione Veneto anche, che potrebbe approfittare della cosa, dicendo guardate, siete arrivati nel Veneto. Oltre a Venezia potreste anche vedere Vicenza, no? da Padova, certo. Oppure da vedere quattro ville venete, oppure il Brenta, cioè fare un piano, cioè, i turisti sono pieni di buona volontà, poveretti, se non sarebbero a casa loro, se la volevano di bene. Certo, questo sicuramente. Non maltrattavi, adesso che sei qua ti meno pure, vabbè. Daverio, prima di salutarci, un ultimo consiglio, qualcosa da andare a vedere domani, l'ultima cosa che ha scoperto Daverio è rimasto... Un consiglio generale, andare a vedere delle cose poco importanti vicine a dove si sta, ecco. Perché l'Italia chilometri è un zero. Magnifico museo diffuso, bisogna andare o non oltre 35 chilometri, in ogni luogo d'Italia, a 35 chilometri di distanza... C'è un documento eccellente. E così risparmiate anche sulla benzina. Benissimo! Grazie, buon Ferragosto, buona estate, Filippo Daverio. Borsa. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua, cari ascoltatori, 800 24 00 24. Già che ci siamo, è passato un po' di tempo, diamo anche un secondo indizio prima di cominciare a parlare di dare la linea agli ascoltatori. Un secondo inizio per quanto riguarda il personaggio della settimana che stiamo cercando, abbiamo detto molto spesso in prima pagina, ma non è più quello di una volta. E andiamo con Cosimo che ci chiama da Brindisi. Buonasera. Pronto? Cosimo, tocca a lei. Pronto, buonasera. Buonasera. Io vorrei commentare le parole del ministro Alfano. Commenti pure. A me non importa se li chiama Vucumpra o altro, magari daranno fastidio sulle strade, sulle spiagge, ma a me dà più fastidio, visto che parla di estate sicura, 17 scippi fatti sul litorale brindisino. 17 scippi? Da quando? Domenica, domenica. Domenica, 17 scippi. Se il signor Alfano invece di fare proclami incentivasse un po' di più le forze dell'ordine pubblico per sorvegliare le strade, magari anche dando un po' più di soldi, magari le strade sarebbe più sicure. Di proclami siamo stanchi. Va bene, lei vorrebbe più sicurezza e meno, diciamo, proclami su Lucumprà. Gli emigrati che vendono sulle spiagge infastidiranno, ti impegneranno 5 minuti della giornata al sole, ma subire degli scippi o trovarsi casa svaligiata penso che faccia più male. Sì, sono d'accordo con lei. Non so se che sono cose da mettere al signor Alfano. Sì, Cosimo, non so se sono cose da mettere una contro l'altra, però nella priorità anche per me viene prima quella dell'altra. Andiamo con Roberto da Milano, buonasera. Buonasera, mi sente dottor Maurizi? Forte e chiaro. Mi sente? La sentiamo forte e chiaro, lei può dire tutto quello che vuole, quasi. Quindi ho tolto l'auricolare. Io sono molto contento di riuscire a parlare finalmente con lei, perché ho alcune cose da dirle. Io sono... A me in particolare? Sì, a lei in particolare, sì. Io sono un animalista e non un sedicente animalista come lei dice, utilizzando la tecnica che utilizzano in molti, e cioè utilizzando il ritratto stante il quale se una persona mangia carne oppure veste scarpe di pelle, allora non ha il diritto di denunciare nessun Roberto, no? Io le faccio di tutto quello che vuole, però io ho detto sedicente animalista perché non tutti quelli che amano gli animali si definiscono degli animalisti, quindi sedicente chi di sé dice che è un animalista, va bene, ci sono altri che animano gli animali e li difendono, ma magari non arrivano a definirsi animalisti. È per quello che l'ho detto. Allora, saltiamo questo passaggio. Allora, la ringrazio per la precisazione. A me dispiace moltissimo, veramente mi dispiace molto che lei si accodi, diciamo così, al plotone di commentatori di Radio 24 che sugli animali ne dicono 1000 al giorno e nessuna giusta, perché lei si ricorderà probabilmente anche il caso dei gatti in pentola di Cruciani e Parenzo. In quel caso lì l'associazione che presiedo dovette fare una protesta mediatica che probabilmente qualcuno a Radio 24 si ricorda ancora adesso. Che associazione presiede, scusi, giusto per la precisione? È il Collettivo Animalista ed è l'associazione che aveva protestato quando Cruciani aveva sostenuto in diretta che non c'erano leggi che proibivano di uccidere e cucinare i gatti. Voi avete una responsabilità, voi avete la responsabilità relativa al fatto che ci sono milioni di persone che vi ascoltano e avete un peso ponderato maggiore rispetto a quello che abbiamo noi. Qualche imprecisione possiamo dirla anche noi, qualche errore. Io spero che chi ascolta non prenda per oro colato tutto quello che diciamo, perché altrimenti è da ricoverare. Sono contento anche di questa precisazione, però lei sa che se lei non interviene o interviene in un modo piuttosto che in un altro. Ma io cosa ho detto però? Che allora, lei vuole... guardi, andiamo io allo specifico. Posso... Lei, dottor Maurizi, lei è certamente una persona intelligente, io la apprezzo anche e non lo dico per piaggeria, ma quando parla di animali dimostra una sconcertante banalità e ignoranza. Lei non può non sapere che gli animali dei circhi, per esempio, sono addestrati a prezzo di incredibili torture. Lei sa come si fanno ad addestrare gli elefanti per farli rimanere su due zampe quelle posteriori? Lo sa. Se non lo sa, si faccia un giro su internet, vada a vedere, ci sono dei filmati ovviamente rubati, no? Filmati di nascosto da degli investigatori animalisti, chiamiamoli così. Lei sa cosa vuol dire per un'orca che vive nell'oceano e per i delfini anche passare tutta la sua vita in una piscina che potrebbe anche essere grande 300 metri, ma una piscina con il fondo in mattonelle. Si rende conto di questa cosa? Lei sa che tutti gli orsi degli zoo, le tigri, i grandi felini impazziscono in gabbia? Non so se ha visto, ma credo che lei segua le notizie e l'informazione, l'orso che è da 30 anni in una gabbia in galera, sì, in Russia. Però scusi Roberto, quello che lei dice è corretto, credo, ed è giusto che lei lo dica. Poi no, io non è che sono in disaccordo con quello che, semplicemente magari non mi sono informato quanto lei su questi argomenti. Adesso lei fa il Collettivo Animalista, quindi è giusto che sia informato e denunci queste cose, però io non credo di aver detto che gli animali in gabbia Mi fanno piacere, perché non lo penso, tra l'altro. Penso che gli animali all'interno, abbiamo parlato di questo, di un parco, come abbiamo parlato ieri sera delle cornelle, siano tollerabili, siano accettabili, siano allo stesso livello di chi si tiene il gatto in casa per il proprio piacere. Io ho fatto questo paragone. Ma se lei mi parla di gabbie e di animali chiusi in gabbie di 2 metri quadrati, mi fanno orrore anche a me. Su questo sono d'accordo. D'accordo, io sono d'accordo dal punto di vista della relativizzazione, possiamo anche relativizzare, ma lei nel parco che ha nominato c'è stato? No, io non sono stato. La prego, ecco, la prego, ci vada, poi dopo io la prego, dopo che c'è stato, quando esce, se qualcuno le dice, ma secondo lei gli animali qui stanno bene, sono felici? Io sono stato a Pombia, e non ho avuto un'impressione negativa. Anch'io, e potrei raccontarle un paio di cose che non le racconto perché non è il caso, nel senso che non voglio raccontargliele, ma se lei desidera posso raccontargliele un paio di cose che sono successe lì e di cui noi siamo a perfetta conoscenza, una l'abbiamo pure vista con i nostri occhi. Quando poi lei dice gli animali nei circhi lavorano, è perché noi non andiamo a lavorare tutte le mattine, ma le sembra... Ho detto una cavolata? Sì, ecco, l'ha detto una cavolata, è d'accordo? È d'accordo su questo? Non lo so, io l'ho detto, l'ha ripetuto un paio di volte, lei si alza la mattina, va a lavorare perché gli uomini per vivere devono lavorare, neanche tutti tra l'altro, come è ben noto, no? Però questo non va bene, tutti dovrebbero lavorare, è una necessità. Sicuramente. Perfettamente d'accordo, ma gli animali per vivere non hanno bisogno di lavorare, perché gli animali nella giungla, nella savana, se lei li lascia in pace, si regolano tra di loro. L'animale che lavora, diciamo che in cambio di vitto e alloggio garantito, senza andare a caccia, ricevono questa istruzioni su quello che devono fare. Allora, se secondo lei questa è una cosa bella e positiva, perché non si fa incarcerare? Va in galera, chiede di andare in galera anche senza aver commesso reati, così il vitto e alloggio è assicurato. Guardi, chi ha un lavoro è già incarcerato, è incarcerato al suo lavoro, non è che io domattina posso svegliare e andare dove mi pare, devo alzarmi e venire e andare a lavorare. È una necessità, ma si rende conto che se lei domani mattina può dire che è malato, che non ha voglia di andare, si può licenziare e andare a fare il giocoliere ai semafori, può fare tutto quello che vuole, è una sua libera scelta dettata dalle convenzioni sociali della società in cui viviamo, certamente, ma è una sua libera scelta. Sì, però insomma, Roberto, su una cosa sicuramente non saremo in accordo, sul fatto che adesso possiamo metterci a paragonare la condizione umana con quella dell'animale dentro uno zoo, dentro un parco, però non saremo d'accordo sul fatto che non siamo la stessa cosa, uomini e animali, sul fatto che è la natura che ci ha messo uno contro l'altro, gli animali contro animali e uomini che hanno asservito tutto, la natura e anche gli uomini, perché abbiamo questa capacità che è una capacità naturale. Dopodiché, se siamo troppo crudeli, questo è sbagliato, però fin dove spingerci è una cosa su cui possiamo discutere, mi fa piacere discuterla con lei. Però non credo che ci sia una verità più vera, ha capito, dal punto di vista filosofico, su come la sta mettendo lei. La seguo. E la ringrazio per la conversazione che temevo sarebbe stata più, come dire, cruda. In realtà lei, secondo il mio modestissimo punto di vista, parte da un postulato errato, che io non condivido perlomeno, nel senso che noi non dovremmo chiederci chi è più intelligente, chi ha più capacità, perché allora poi andiamo a parlare del fatto che le aquile volano e noi no, e che i delfini vanno sott'acqua. No, ma è un dato di fatto che l'uomo ha servito tutto a suo piacere. Non è detto che sia una cosa positiva, capito, ma è la natura che ha fatto questo. Sa qual è l'unica cosa importante? L'unica domanda che noi dovremmo porci è: gli animali soffrono? E a questa domanda io non credo che lei voglia rispondere. No, questo è lecito farsi questa domanda. E gli animali soffrono né più e né meno di come soffrono gli uomini, e cioè soffrono fisicamente e soffrono psicologicamente. Però facciamo un esempio drastico, Roberto. Il caso del farmacista e del piccione. Mi entra in farmacia un piccione e non riesco a scacciarlo. Un piccione che notoriamente, purtroppo, è un animale che, forse anche per colpa dell'uomo, non è colpa sua, è un animale che porta, veicola delle malattie, lo scaccia, lo uccide. Cosa dobbiamo fare? La ringrazio. ringrazio molto per questa domanda, perché adesso lei si metterà a ridere probabilmente, ma noi in piccioni siamo specialisti, diciamo. La favola stante la quale il piccione sarebbe un portatore di malattie e si nomina sempre la salmonella è una palla colossale, è una palla colossale. Il piccione porta la salmonella se lei mangia la cacca del piccione. Ma provi a mangiare la cacca di un suo collega e no, vediamo, grazie, che cosa le succede, perché non è vero, sono bugie. Il piccione è un animale come gli altri, è un animale come l'uomo, e certamente lei ha in mente qualcuno che ha beccato una malattia da un piccione. Lei conoscerà un sacco di gente. Lei sa nominarmi una persona tra tutte i milioni di persone che lei ha conosciuto in vita sua che ha beccato una malattia da un piccione? E invece mi sa nominare quante persone lei conosce? Guardi, io non conosco nemmeno nessuno che ha preso malattie da un topo, no, però credo che dagli uomini sì. Sono gli uomini che portano le malattie, non i piccioni. Quindi alla base di tutto c'è un'informazione sbagliata, secondo lei? Cioè il farmacista non sapeva che il piccione non è un animale che porta malattie. No, però non è un animale che porta malattie. Non è un animale può portare un po' di devastazione all'interno di una farmacia. Che porta più malattie che di altri. Sì. E certamente non porta più malattie degli uomini. E il piccione, quello che poteva fare in farmacia era scagazzare qua e là e sporcare la farmacia. La vita di un essere vivente, perché scagazza in farmacia, soppressa in quel modo ignobile e indegno, è una vergogna. Io sono d'accordo con lei che tutto deve essere proporzionato alle situazioni. Allora, su questo sì. Io però mi metto anche nei panni del farmacista che ha le persone dentro la farmacia e a un certo punto non sa cosa fare. Qualcuno ha detto avrebbe dovuto chiamare un'associazione, può darsi. Cosa avrebbe dovuto fare, secondo lei? Dottor Maurizio, io l'ho sentita quando lei ha detto questo. Allora, chiunque di noi conosce una persona che bene o male si occupa della gestione di qualche animale, i piccioni sono facili da prendere. Far uscire un piccione dalla farmacia è una cosa talmente stupida che saprebbe farlo anche mio nipote che ha 5 anni. E il fatto è che quando una persona pensa a un altro essere vivente non umano, non ha nessun tipo di cura nel farlo uscire indenne dalla situazione in cui si trova. La soluzione più semplice è sopprimerlo. Io mi ricordo una volta, lavoravo in un grande magazzino a Milano e entrò un piccione, un grandissimo magazzino a Milano, sì. entrò un piccione, il capo della sicurezza di quel grande magazzino lo prese il piccione, lo prese in mano, perché i piccioni, guardi, che li prende, soprattutto se questo è 40 minuti che gironzola nel reparto, l'ha preso in mano, avrebbe potuto accompagnarlo fuori dalla porta e tirarlo in Piazza del Duomo. Mi segue? Sa sì, cosa sì, fece? Sì. Gli tirò il collo. E questa è la dimostrazione plastica del fatto che la crudeltà è una componente che va combattuta. È vero, è una no, però è una componente che c'è, la crudeltà, perché lo ha detto lei, è vero, molte persone ammazzano, che ne so, la zanzara senza pensarci, un animale, è un essere anche quello, no? Se la zanzara se ne andasse da sola potrebbe essere meglio per me e per lei, non ci pensa nessuno. È vero, però la crudeltà purtroppo sta anche questa nella natura. Io contesto quando mi si dice che è contro natura. L'uomo può anche essere crudele con gli animali, questo fa parte. Quando mangiamo gli animali siamo molto crudeli, quando facciamo tante cose siamo molto crudeli, non solo quando scacciamo il piccione dalla farmacia. È facile additare quello e non vedere tutto il resto. Questo dico io. Roberto, è stato un piacere parlare con lei, però e tra l'altro, anzi, la ringrazio per il tono, perché devo dire che a differenza di altri sedicenti, lo ripeto, animalisti che urlavano e inveivano, non si poteva discutere. Invece con lei siamo riusciti a discutere. Se vuole ci prendiamo altri 5 minuti domani, dopodomani, no, domani no, e affrontiamo qualche altro argomento. Grazie, sono a vostra disposizione. Solo una precisazione sulle zanzare. Guardi che le zanzare non hanno il sistema nervoso centralizzato. La linea di confine è il sistema nervoso centralizzato. Quindi quelle le posso ammazzare? Diciamo che se lei non le ammazza è meglio e fa un favore, sì. Come dire, al pianeta. Però la sicurezza relativa al fatto che un essere vivente soffra ce l'abbiamo se questo essere vivente ha il sistema nervoso centralizzato. Questo ci posso credere. Grazie Roberto. Grazie a lei. Buona Grazie serata. Lei. Buonasera. Vabbè, insomma, alcune delle cose che ha detto sono interessanti, almeno dal mio punto di vista. Almeno si poteva discutere, questo sì. Vincenzino da Macerata. Ricordo che abbiamo un personaggio della settimana che stiamo cercando, che è molto spesso in prima pagina, anche se non è più quello di una volta. 800 24 00 24, facciamo una pubblicità e torniamo tra un attimo. Si può fare l'attualità anche d'estate. Vincenzino, buonasera, benvenuto. Buonasera. Allora, io volevo dire io che vado al mare e ci vedo Nova Marche. E ogni, abbiamo fatto un calcolo. Sì. E ogni due minuti e mezzo passa a Vucumbra. Sì. Allora, l'altro giorno mi è venuta un'idea. Allora ho preso un ragazzo marocchino che conosco. Sì. Mi sono fatto scrivere in arabo, non ho un euro. E se l'ha messo a tutto. L'ho appeso all'ombrellone. Sì. Però scusi, non parlano, non è che sono tutti arabi, ci sono anche quelli indiani. Bisogna aggiornarlo. Non potevo fare un elenco completo di tutte le lingue, di tutti i. Ma lei quindi parte. È stato tutto il pomeriggio col cartello attaccato, non ho un euro? Attaccato all'ombrellone, non ho un euro. Ah, l'ombrellone l'ha attaccato. All'ombrellone, perché loro passano avanti l'ombrellone. Avranno pensato, sa cosa hanno pensato Vincenzino? Avranno pensato, questo sta peggio di noi, lasciamolo perdere. E allora lasciamolo perdere, sono riuscito a dormire una ventina di minuti, 25, sono riuscito a riposare un attimo. Ho trovato sto scamotace io, però voglio dire che funziona. Va bene. Lei lo consiglierebbe insomma anche a qualcun altro? Sì, perché voglio dire, non c'è tregua. Ogni due minuti, un minuto e mezzo, due minuti massimo, ne passa uno, gli occhiali, la collanina, la maglia. Sono tanti, questo sicuramente è vero. Grazie, buona serata anche a lei, Vincenzino. Was nice, the party was pumping. Hey-ya. And everybody having a ball. Ha, ha. Until the fellas start the name calling. And the girls respond to the call. Ha, ha, I have a boom and shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? D'ora in poi negli ospedali di Ravenna nessuno potrà più lasciare fuori il cane, come dice questa canzone. Il cane, ma anche il gatto, credo, altri animali. Parliamo di pet therapy e volutamente restiamo in tema di animali perché è un tema che ha scaldato molto in questi giorni. Ma c'è una notizia che viene proprio da Ravenna. Noi abbiamo convocato l'assessore ai diritti degli animali di questa città, Giovanna Piaia. Buonasera. Buonasera. Allora, qual è la novità che andate, diciamo, introducendo negli ospedali della vostra città? Allora, la novità è una legge regionale, la prima in Italia, che autorizza l'incontro dei pazienti ricoverati con il loro animale. Si tratta di animali di affezione, quindi prevalentemente cani e gatti. Quindi è la legge regionale, sì, che ha dato la promozione di queste iniziative, che poi devono concretizzarsi in un regolamento specifico che ogni struttura ospedaliera doveva mettere a compimento. Quello che Ravenna ha fatto è stato particolarmente solerte, ecco, io quando... Siete stati tra i primi a mettere mano a questo regolamento. Non saprei, perché il comune, come comune, ho verificato che le direzioni sanitarie acquisissero questa disposizione. Poi a distanza di pochi mesi peraltro, quasi settimane, ho verificato che due strutture private e una pubblica avevano organizzato attraverso un regolamento la possibilità di realizzare questo incontro. Non è una pet therapy, perché c'è molta confusione, certo, su questo argomento. La regione Emilia-Romagna ha descritto attività assistita con gli animali e ha inserito anche la pet therapy. Questa è semplicemente non è, diciamo, un'attività, che la pet therapy sarebbe è quella terapia vera e propria, attiva, in qualche modo curativa, riabilitativa, esatto, in cui gli animali entrano, sì, e danno una mano, cani, cavalli, hanno un ruolo attivo. Invece in questo caso caso voi avete puntato alla regione e voi sul fatto proprio di la possibilità di portarsi nel momento in cui si va in ospedale gli animali, più come una cosa di affezione e quindi anche di terapia, diciamo, collaterale che altro. Ma, però non è una degenza insieme, ecco, che si fa. Cioè è la possibilità su richiesta, quando la persona entra in ospedale, se ha l'interesse a prevedere di incontrare il proprio animale, perché magari una degenza è lunga, può informarsi alla direzione sanitaria, chiedere il regolamento e poi fare richiesta di questo incontro. Cioè si il cane può entrare magari con un altro parente, con un parente, ovviamente. E ci sono degli spazi apposta, immagino, dove si può fare l'incontro. E delle aree escluse, terapie intensive, aree di urgenza, sale operatorie. Perché prima ad oggi, mi scusi assessore, prima ad oggi diciamo gli animali non potevano proprio entrare negli ospedali. Quindi se io devo stare 10 giorni ricoverato e non potevo vedere per 10 giorni il mio cane, questo poteva anche essere un elemento, diciamo, sicuramente di tristezza o quantomeno di nostalgia. Le chiedo una cosa, avete avuto da parte degli animalisti critiche, suggerimenti, proposte? O, no. Perché magari sarebbero andate nel senso opposto, esatto. Invece noi siamo stati molto, molto solerti e quindi non abbiamo fatto attendere, ricevute le linee di attuazione, linee guide di attuazione, Ravenna ha dato realizzazione a questa possibilità. Del resto abbiamo un ufficio diritti degli animali, che è una qualità del nostro lavoro. Lei infatti ha la delega come assessore, perché non è assessore soltanto agli animali. No, sicuramente no, di questi tempi si hanno molte deleghe, però questa è una delega importante perché i cittadini sentono molto il problema. Paradossalmente nelle grandi città, nelle metropoli ci sono più bambini che animali nelle case, quindi già questo ti fa immaginare, ci fa immaginare. Cioè voleva dire più animali che bambini. Più animali che bambini, sì. Ci sono più animali che bambini, quindi tendenzialmente noi dobbiamo prevedere che c'è una sorta di solitudine e di bisogno di poter avere una compagnia, e l'animale favorisce un'interazione molto positiva tra persona. Con le persone, quindi anche per molte persone anziane che quindi hanno animale, quindi possono andare anche in una casa di riposo e quindi avere bisogno anche di continuare questa relazione. Noi possiamo avere anche tramite un'attività di volontariato, avere un affidamento del proprio animale, ma continuare anche una visita alla persona con l'animale. Si possono prevedere tantissime cose, e tutto questo con servizi che siano di qualità, gestiti dal comune, canile, gattile, ma anche una attività molto fervida delle associazioni di volontariato, le quali si adoperano per supportare l'attività di gestione nelle strutture, ma anche promuovere l'affidamento, attività anche esterne di informazione e di insegnamento alla cura degli animali. Va bene, grazie all'assessore di Ravenna, Giovanna Piaia, grazie per essere stata con noi. Benissimo, questa era la notizia. Avete sentito, cani e gatti possono entrare negli ospedali della città grazie a un regolamento che lo prevede, spazi appositi per facilitare questo incontro quando uno è ricoverato e vuol vedere il suo cane. Questo mi sembra una cosa che non fa male a nessuno, né agli animalisti né agli altri, potrebbe mettere tutti d'accordo. Paola da Bergamo, buonasera. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, io volevo rispondere al quesito. Ah, il personaggio della settimana, vada. Sì, il personaggio. Avevo pensato a Beppe Grillo. Mm-hmm. Perché, dice lei? Perché è spesso in prima pagina, ma non è più un comico. È vero, è sicuramente vero. Però non è lui il personaggio a cui abbiamo pensato. Comunque. Grazie Paola per aver chiamato comunque. Abbiamo detto che è molto spesso in prima pagina, l'ha ricordato Paola giustamente, però non è più quello di una volta. Magari possiamo dare anche un altro indizio? Lo vogliamo dare? Sì. Non sempre mantiene le promesse. Bah, diciamola così. Daniele da Lucca, buonasera. Buonasera. Vada. Sì, niente, io mi sembra che si stia un po' esagerando con questi animali, perché cioè si sta andando all'opposto, cioè io devo rispettare tutto quello che gli animali, devo rispettarli in tutto e per tutto, ma gli animalisti non rispettano chi non interessa gli animali. io vado in un bar, faccio un esempio, mi trovo un cane con il viso vicino al mio busto e sì, va bene così. È vero, a me l'altro giorno è capitata alle poste di un signore che aveva un cane senza guinzaglio e giustamente gli è stato fatto presente che non va bene. Era un cane anche piuttosto grosso. Senza museruola. Sicuramente senza museruola. E questo signore la guardava come dire, ma lei è crudele contro gli animali. La signora ha semplicemente detto, no guardi, io forse ho un po' paura, però sarà pur legittimo, no? Dentro un ufficio postale. Stiamo diventando noi, sembra che discriminiamo. Cioè io non voglio un cane vicino, oppure lo vorrei con la museruola, posso aver paura, posso avere un bimbo. No. Se te dici, non va bene niente, non puoi dire niente. Se gli dici toglimi il cane di lì, probabilmente sei te quello cattivo. Bisognerebbe parlarne con il responsabile prima, sì, del collettivo animalista per sentire su questo se le dà ragione o se prevale il fondamentalismo animalista. Sì, io continuo a dirlo perché c'è questa cosa qua. Ora, il farmacista di Milano avrà pure esagerato nella sua reazione, però trovarsi scritto su Facebook che è un assassino, che al suo funerale non ci va nessuno, che augurarsi che muoia, mi sembra esagerato, francamente, mi sembra super eccessivo. Daniele, voleva aggiungere? Ho un'attività. Sì. Io se mi entrano dei topi devo sterminarli, non posso prenderli e metterli fuori. Cioè, qui siamo proprio all'assurdo. Va bene. Che attività ha lei? Io ho un alimentare. Certo. Raffaele da Bologna, buonasera. Dottore, buonasera. Senti, io volevo solo fare una piccola provocazione, ma mi ha anticipato la persona precedente sul fatto che stiamo realmente esagerando. Una piccola provocazione verso gli animalisti, buttata un po' così lì a caso. Sì. Io ho un cane, quindi cerco di rispettare quello che è l'ambiente, raccolgo i miei escrementi che fa il mio cane, vado in giro, però non tutti si comportano così. Per quanto riguarda i piccioni invece volevo dire, se si unissero gli animalisti e venissero a pulire, per dire, a Bologna il Nettuno quando viene bombardato dai piccioni o altri monumenti, che paghiamo poi noi alla fine la pulizia, no? Cosa dice lei? Cosa dico? Dico che... Questa è una piccola provocazione, capito? Va bene, Raffaele. Non sono lì per tirare il collo a uno, tirare il collo all'altro, il cane deve avere la museruola. Ci sono però, ricordando al precedente, alcuni bar che accettano i cani, quindi dovrebbero essere i proprietari dei bar che dicono guinzaglio e museruola. Grazie, va bene. Sentiamo se qualcuno coglie la sua provocazione. Andrea da Vicenza, buonasera. Sì, buonasera, salve. Prego. Complimenti intanto comunque per la pacatezza con cui conduce la trasmissione. Grazie. Io volevo provare a dare la risposta al quesito. Sì. Volevo dire Silvio Berlusconi, è spesso in prima pagina, non è più cavaliere e non mantiene le promesse a volte. Ad honorem potremmo dargliela, perché in effetti ci stanno tutte e tre. Ci stanno assolutamente tutte e tre. Come del resto, e questo è il gusto di questo gioco, anche per altri personaggi. Ma non è lui a cui avevamo pensato noi questa sera, Andrea. Grazie per aver chiamato, grazie. In effetti sì. Però vedrete che quando arriveremo poi... Ridono in redazione, che non ha mantenuto le promesse, lui stesso credo che lo possa, diciamo, sottoscrivere. Molti del suo partito ormai lo danno come la famosa rivoluzione liberale, del resto è storia questa qua. Lorenzo da Bologna, buonasera. Ecco. Buonasera, dottor Maurizio, giusto? Ecco. Buonasera, guardi. Mi fa sentire un attimo i titoli della 7, scusi, che poi la faccio parlare. Prego. Tutta l'Eurozona ad essere in crisi, all'Eurozona la crisi riguarda tutti. A Napoli, Reggio Calabria e in Sicilia il Premier promette riforme, ma a Bruxelles chiede bisogna consentire a paesi come l'Italia di esprimere il proprio potenziale. Così traineremo l'Europa fuori dalla recessione, non cresciamo tagliando i salari. Sull'articolo 18 annuncia cambieremo le garanzie sul lavoro. Primo giorno di visita di Papa Francesco in Corea del Sud, il mondo è stanco della guerra, dice il pontefice, ma in risposta dalla Corea del Nord ordinano il lancio di razzi in mare, il pontefice incoraggia gli sforzi per la riconciliazione e invoca la pace duratura per la stabilità nella penisola coreana. Prima di atterrare a Seul invita i giornalisti a pregare con lui alla memoria di Simone Camilli, il reporter ucciso a Gaza, la salma del giovane rientra stasera a Roma. Nel cuore profondo degli Stati Uniti torna lo scontro sul razzismo. A Ferguson, nel Missouri, quinto giorno consecutivo di proteste e disordini notturni dopo l'uccisione di un ragazzo nero fermato dalla polizia e freddato da un agente. Il presidente Obama ammette eccessiva la reazione delle forze dell'ordine, ma invita tutti alla calma, dispone che non sia la polizia di St. Louis a occuparsi del caso e promette: accerteremo la verità e faremo giustizia. Sarà Antonio Conte il nuovo allenatore della nazionale. Il via libera all'accordo tra Federcalcio ed ex CT della Juventus arriva grazie alla partecipazione di un grande sponsor tedesco che verserà la metà dell'ingaggio totale, che ammonta a 3 milioni e 600 mila euro per il tecnico mandato per 2 anni fino agli europei del 2016. Eccoci qua, andiamo con Lorenzo che ci chiama da Bologna. Buonasera. Buonasera, ecco. Aggiungo adesso al volo una cosa in più a quello che volevo dire. Innanzitutto buonasera a tutti i radioascoltatori. Ecco, capiterà sicuramente a tutti quelli che hanno i cani di andare in spiaggia e il bagnino dirà sicuramente che no, il cane non può stare. Invece no, perché c'è da 2 anni una legge europea che vale per tutti e il cane munito di guinzaglio può essere portati in spiaggia dappertutto. Cioè in qualunque spiaggia il cane può andare purché sia a guinzaglio. Esattamente. Ecco, poi volevo aggiungere una cosa a proposito di Vucumprà. Sì. Io sono di Bologna, quindi sono sempre andato al mare, nel litorale riminese, cesenate, così. E si sa che i venditori di cocco, e non solo loro, sono innanzitutto non sempre napoletani o vengono dalla Campania, e da quello che si dice, ma credo sia la verità, sono gestiti dalla Camorra. Ecco, questo volevo dire. I venditori di cocco sono, secondo quello che lei sa, ma lo sa perché lo ha letto, gliel'ha detto qualcuno, sarebbero gestiti dalla Camorra. A me questa cosa non l'ho mai sentita, però. No, è una cosa risaputa, almeno per quanto mi riguarda, ecco. E non sono sicuro, ma penso che ne parli anche Saviano nel libro. È vero, adesso che lo dice è vero, forse l'ho sentita anch'io questa cosa qua. Ecco, poi mi permette molto, con molto rispetto, di tirare le orecchie, nel senso che... A me? Sì, certo, come no? Guardi, gliele metto a disposizione tutte e due. Sì? Nel senso che ha affermato questo avvocato, questo signore di 79 anni che raccontava questo episodio a Sharm el Sheikh che con col delfino. Sì. Mi sarebbe tanto piaciuto ascoltare le sue parole e invece non ascoltare quel signore che parlava di zanzare, eccetera, eccetera. Ma questo è un appunto mio, spero di aver esagerato. Va bene. Lorenzo, ecco, grazie, buona serata, grazie. Valeria dalla provincia di Varese, buonasera. No, sono qua, sì. Pronto? Sì, tocca a lei. Ecco, dunque, prima di tutto intanto mi auguro che rimanga lei anche in seguito, e questo per simpatia. Grazie. E poi, siccome una di queste sere in cui avevo anche chiamato ma non mi si sentiva, e un signore aveva detto che... chi ama gli animali finisce col non amare poi l'essere umano. A questo punto voglio dire che io, da ignorante, ma l'ha detto qualcuno insomma un po' più di me, che più conosco l'uomo e più amo gli animali, no? Ecco, a parte questo, chi l'ha detto però questo? Oscar Wilde. Ecco. Perfetto. Sì, appunto, non l'ho detto io, certamente, da ignorante, ma volevo dire che questi insegnamenti ce li ha dati queste tre religioni monoteiste che hanno messo l'uomo al centro dell'universo, senza più nessun rispetto per gli animali, che invece i pagani, e per la natura, che invece i pagani avevano, no? Per cui da noi la nostra religione dice che gli animali e la natura sono al servizio dell'uomo. E io ci metterei anche la donna, no? A parte che ci metterei anche la donna, ma voglio dire, cioè la donna come gli animali, no, nel senso, abbia pazienza, sì. Ma vede ancora i musulmani, e noi, siccome quelli sono nati 700 anni e noi non è che si sia molto ma molto più avanti, ecco, ma la religione questo insegnava. D'altra parte San Paolo, la donna deve stare sottomessa all'uomo perché gli è inferiore, no? Ma mi cita qualche, lei è informata, mi cita qualche passaggio, che ne so, della Bibbia che dice qualcosa di questo genere, ce l'ha? Io della Bibbia so pochino, ecco. Però è di lì che parte questa idea dell'uomo, del maschio al centro dell'universo, perché in effetti neanche la donna c'era, perché la donna è venuta fuori dopo, in seguito, quando ha visto che non potevano assolutamente i cristiani eliminare la dea madre. Però se non mi cita nessuna cosa del Corano o della Bibbia, diciamo che il suo argomento è un po' zoppo, però va bene, vale. La prendiamo così. Approfondiremo. Fino a 200 anni fa, sì, non si parla del Medioevo, non erano ancora ben sicuri che la donna avesse un'anima. Sicuramente il concetto, capisce, di anima, lei adesso l'ha toccato, è un concetto, diciamo, trasversale, almeno alla Chiesa, alla religione cristiana, e sicuramente gli animali. Io non sono, diciamo, ferratissimo in catechismo, però credo che gli animali non abbiano l'anima, ecco, nella schematizzazione della religione, della nostra religione. Quindi non lo so, magari mi sbaglio. E Valeria, su questo può darsi che abbia colto un nesso. Andiamo con Flavia da Udine. Buonasera. Io volevo rispondere, se era possibile, al quesito che ha fatto su chi appare in prima pagina. E secondo me è Renzi. Sì, per quale motivo? Perché non ha mantenuto quasi nessuna promessa, è sempre in prima pagina, non è più quel di una volta. Anche se anche su questo, in effetti, ci potrebbe stare pure Renzi, che anche se è giovane per non essere più quello di una volta, però in effetti, diciamo, forse ha già qualche capello bianco in più da quando è al governo. Però non era lui. Le promesse non è neanche lui, ecco, vabbè, niente, io ci ho provato. Non è lui, non è lui. Grazie, buona serata, Flavia. Abbiamo adesso, è il momento del nostro maestro di Capannori, Rossano Ercolini. Ciao Rossano, buonasera. Buonasera, ciao. Allora, stasera andiamo sempre noi nel cassonetto dei rifiuti, insomma, a cercare di vedere che dentro non ci sono solo rifiuti, oggetti inutili da buttare via, ma ci sono risorse, miniere, e di lì poi si apre tutto un mondo, il riuso, gli imballaggi, c'è tutto. Lo sanno, stasera dove ci porti? Stasera parliamo dei meccanismi, dei dispositivi normativi che consentono la remunerazione e la valorizzazione dei materiali intercettati con le raccolte differenziate, vale a dire la carta, i metalli, come vengono raccolti e quanto vengono pagati e quali sono le condizioni merceologiche perché siano ben remunerati. È interessante, scusami, questa cosa, perché in effetti tutti noi sappiamo, stiamo provando a differenziare le bottiglie dalla plastica, il vetro, la carta, a parte poi la domanda, ma chissà che fine fanno, le rimettono insieme, la gente che non si fida, non è vero, non è che le rimettono insieme, vengono differenziate, perché? Perché alla fine c'è un mercato. Tutta questa roba va da qualche parte ed ha un valore, e di questo in effetti non si parla mai, non si sa chi sta dall'altra parte della catena e rivalorizza queste materie prime. Sì, e dunque in Italia esiste il Consorzio Nazionale degli Imballaggi, che è stato istituito con la normativa 152 del 2006, anzi precedentemente con De Sponchi, che poi si articola in consorzi cosiddetti di filiera. Il consorzio della plastica si chiama il consorzio del legno, si chiama Rilegno, il consorzio della carta si chiama il Comieco, e il CIAL è quello che sta per l'alluminio. E ogni 5 anni viene riaggiornato l'accordo quadro che viene contratto tra l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ANCI, e il CONAI, che definisce le modalità, le caratteristiche merceologiche che poi portano sostanzialmente, perché poi contano le remunerazioni, a definire le remunerazioni. Detta in estrema sintesi, un comune che organizza una raccolta differenziata selettiva, cioè che va a curare la purezza marciologica dei materiali, vale a dire il cartone se lo raccoglie a parte dalle riviste, dalle carte grafiche, dalle altre tipologie cartacee, spunta risultati economici interessantissimi. Il cartone viene remunerato oltre 96 euro tonnellata, ma addirittura le plastiche, se hanno una presenza di impurità, cioè di frazioni estranee alla plastica, arrivano addirittura a 327 euro, oltre 327 euro tonnellata. Cioè, ma mi stai dicendo, scusami, ti interrompo, mi stai dicendo che un comune che raccoglie della plastica discretamente, diciamo, omogenea pulita, sì, e un cartone, eccetera, ottiene una remunerazione da parte del CONAI di questo tipo? Sì, sì, sì, certo, sono remunerazioni a chilo proprio, a tonnellata, insomma, a quantità. A quantità, e ovviamente, ma la parola chiave è purezza merceologica, e l'organizzazione viene incoraggiata a spostarsi dalle cosiddette raccolte congiunte, dove raccolgo la carta tutta insieme, sì, allora quella è congiunta, è meno remunerabile, alle raccolte selettive, che raccolgono differenti tipologie anche in seno allo stesso materiale. Per cui un comune che fa correttissimamente questa cosa qua non soltanto non deve poi pagare i treni per andare a spostare i rifiuti in Germania, come ha fatto Napoli per tanto tempo e forse lo fa ancora, ma incassa addirittura molto di più. Certo, incassa sono quantitativi, ma dal punto di vista economico per un'azienda che gestisce i rifiuti può valere fino al 10% di un bilancio di quel gestore, di quell'azienda, se parliamo di Roma, di Ama, se parliamo di Milano, adesso non mi ricordo come si chiama, ecco, però il 10% del bilancio di un'azienda del genere sono quantitativi molto importanti, può essere la terza, la quarta voce di un bilancio, per cui è chiaro perché sta avvenendo, perché come abbiamo più volte detto, come te dicevi all'inizio, nel cassonetto c'è la miniera urbana, perché sul libero mercato addirittura le remunerazioni sono più elevate, e allora uno si può chiedere, allora perché i consorzi di filiera remunerano di meno? Beh, remunerano di meno perché in cambio ti danno la copertura a quel comune che fa degli investimenti, comunque ti dice maledetti e sicuri, e ti do 96 euro per il cartone. Però sul libero mercato, adesso io cito, sì, cambia costantemente, però la remunerazione sul libero mercato del cartone può arrivare anche a 150 euro tonnellata, quindi molto maggiore di quella riconosciuta dai consorzi di filiera, tant'è vero che è consentito per i comuni che si possono permettere di trattare bene i materiali che raccolgono di uscire anche provvisoriamente dall'accordo ANCI-CONAI, cioè in altre parole di andare sul mercato. Rossano, facciamo una brevissima pausa, se poi devi concludere perché abbiamo le informazioni sul traffico, poi chiudiamo questo argomento. Si può fare, si può vivere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare l'attualità anche d'estate. Di nuovo insieme a Rossano Ercolini, Zero Waste Europe, e stavamo analizzando dunque il flusso. Allora, ci sono i comuni che raccolgono, abbiamo fatto l'esempio di cartone, cartone pulito e plastica pulita, le rivendono al CONAI e incassano. Poi c'è il mercato, ci stavi spiegando a sua volta, ed è un altro anello, diciamo, di questa catena. Il mercato che paga ancora di più, perché poi questo materiale che succede? Sì, questo naturalmente più è pulito e più è facilmente riutilizzabile tal quale all'interno dei cicli produttivi della carta, della plastica e di pregio, perché le plastiche di pregio e pulite hanno anche remunerazioni sul libero mercato, il polietilene fino a 700 euro tonnellata, per cui sono effettivamente voci importanti che non solo ti consentono di ridurre gli smaltimenti, cioè i rifiuti di smaltire, e quindi ti aiutano a minimizzare gli impatti ambientali, ma consentono anche economie nella filiera intera, dal produttore manifatturiero fino a tutti coloro che maneggiano, cioè puliscono, perché questi, una volta noi facciamo la raccolta differenziata come cittadini, poi tutto va in piattaforma, ci sono dei trasportatori, ci sono degli interventi che puliscono per ridurre al minimo le frazioni strane per arrivare, diciamo, al ciclo produttivo. Quindi stiamo parlando di posti di lavoro, stiamo parlando di posti di lavoro che vanno dalla raccolta differenziata e arrivano fino poi all'industria fattoriera, che può acquisire diciamo a costi elevatissimi terre prime e seconde, che ovviamente danno competitività al manifatturiero, tant'è vero che l'Europa, perché insiste sull'estrazione dal cassonetto delle materie prime e seconde, perché non ha materie prime a livello naturale, quindi se le deve andare a cercare, ad estrarre, invece di andarsi a prendere dalla cioè, addirittura Cina. Diventa proprio macroeconomia. Cioè quando diciamo una miniera non scherziamo, perché io se me lo permetti sono un pochino arrabbiato, non indignato, non esagerato, un po' arrabbiato. Arrabbiati, qua ti puoi arrabbiare quanto ti pare, Rossano. Si parla di posti di lavoro, ma io come vi ho già detto, ora io mi permetto proprio di usare, se posso usare questo brutto verbo con voi, ma voi vi lasciate volentieri usare, cioè, c'è bisogno per un piano del lavoro, di un piano nazionale del riciclo, quante centinaia di migliaia di posti di lavoro possono venire fuori dalla valorizzazione dei materiali cartacei, dalla valorizzazione dei materiali plastici, dai metalli, dall'acciaio, dal ferro, per non parlare, come dicevamo, dell'oro e dei metalli preziosi e dello stesso rame. Quanto deve passare, come dice la canzone, prima che si capisca l'importanza economica, non solo ecologica. Ecco perché Rifiuti Zero è positivo. Noi vogliamo promuovere economia, sappiamo benissimo che ci sono problemi ambientali ma anche sociali. Senti, ma la parte della risposta soffia nel vento, diceva la canzone, ma facendo una percentuale, secondo te oggi in Italia noi di tutte queste materie prime quanto ne recuperiamo correttamente? 20, 30, 40, 60% o meno, di più, per avere un'idea di quello che c'è da fare ancora, da recuperare, ma anche... Dunque, come al solito, l'Italia, io dico sempre, è un paese dalle montagne rosse, trovi il peggio ma trovi anche il meglio a livello internazionale. E a di Leopardo ci sono 12 milioni di italiani che sono oltre il 65% di raccolta differenziata, fino all'80%. E questa è la parte buona. E questa è la parte buona. Diciamo, mediamente noi siamo un po' sotto i livelli di recupero della media dell'Unione Europea, perché messo a sistema ancora una volta si punta sul cittadino responsabile o sul sindaco illuminato o sull'impresa illuminata. Bisogna che intervenga il legislatore, che intervengano le classi dirigenti e metta a sistema tutto quanto in modo tale da poter estrarre, oltre ai vantaggi economici, oltre ai vantaggi ecologici, anche quelli economici. E andiamo a recuperare questa distanza, mi raccomando. Grazie Rossano, ci sentiamo la settimana prossima. Buon Ferragosto, ciao. Grazie anche a voi, anche all'ascoltatore. Andiamo con Roberto da Roma, buonasera. Buonasera. Prego. Niente, volevo dire appunto stavate parlando tra l'uomo e l'animale, ecco, diciamo che sono le due entità, voglio dire, neanche paragonabili, uno all'intelligenza, l'altro all'istinto. È ovvio che l'animale ha un livello sottostante all'uomo. Quello che voglio dire è che l'uomo non è, proprio perché è intelligente, è libero anche di fare i danni. L'animale invece è istintivo e deve rispettare le leggi della natura senza cambiare e modificare nulla. L'animale non cerca Dio, l'animale non prega. L'animale non si accoppia quando vuole, ma quando deve, rispetto all'uomo, quindi l'uomo è un'altra entità. Nei rapporti, che cosa è nato in questi ultimi periodi, diciamo, c'è molto rapporto tra l'uomo e l'animale, perché con l'animale non si rischia nulla. Lei questo è entrato dentro casa, entra dentro casa, porta gli adori da mangiare un giorno, lui scodinzola sempre. L'uomo... Certo, l'animale, averci l'animale non è una cosa con cui ci si confronta come con una persona, questo sì. Ora, esatto, che questo sia il motivo per cui tutti hanno gli animali non lo so, però è vero che a volte viene da pensarla così, da parte di chi, come credo lei, non ha animali. No, non mi voglio animali, ma nemmeno io, nemmeno io. A volte l'ho fatto anch'io questo pensiero, però non lo so se poi è giusto o sbagliato, ognuno poi soggettivamente fa quello che vuole. Grazie Roberto. Andiamo con Viviana da Bologna. Buonasera. Buonasera Viviana. Volevo rispondere sul personaggio della settimana. Vada. È il tempo in senso meteorologico. Eccola qua. Benissimo, perché diciamolo a questo punto? Perché è sempre in prima pagina anche nei discorsi delle persone, soprattutto negli ultimi tempi. Non mantiene le promesse. Sì. E, vabbè, l'ultima poi non è più quello di una volta, perché in effetti si dice sempre che non è più quello di una volta, ed è un po' il personaggio dell'estate, perché questo meteo qua ci ha fatto un po' diventare matti sicuramente. Va bene Viviana, grazie. Vince i biglietti per la mostra a Roma, però in questo caso di Andy Warhol, ma insomma se capita un'occasione, se ha qualcuno a cui regalarli, è comunque un piccolo premio. Grazie Viviana, penso che andremo. Grazie a voi, complimenti, buona serata. Allora abbiamo fatto anche questa, dai, anche stasera hanno vinto. Antonia D'Alecco, buonasera. Sì, buonasera. Sì. Io volevo esporre il mio pensiero circa la linea dura di Alfano contro gli ambulanti in spiaggia. Secondo me è un aspetto e non è un problema, nel senso che, primo, gli ambulanti di spiaggia vendono articoli, diciamo così, fuffa, tra virgolette, no? Quindi i negozianti italiani non dovrebbero temere se vendono prodotti di qualità. Secondariamente, che un politico che ricopre la carica, che ricopre Alfano, si interessi e mette in evidenza questo aspetto degli ambulanti, secondo me significa che non cerca i problemi veri degli italiani, non li capisce e quindi non sa risolverli e non li sa gestire. Perché nulla proprio, cioè bocciato su tutta la linea. Sì, l'aspetto degli ambulanti in spiaggia, i Vucumpra, diciamo così, è un aspetto talmente marginale che non influisce sulla crisi italiana. Guardi, io l'ho già detto diverse volte, sono abbastanza d'accordo col fatto che gli ambulanti in spiaggia non siano un grosso problema. Sicuramente non le metterei nell'elenco dei primi 5 o 10 problemi, ma neanche dei primi 15. Soprattutto per quanto riguarda la visione soggettiva, cioè passano, dici no e vanno avanti. Poi c'è un tema di contraffazione delle merci, e questo forse è anche un'industria illegale che va estirpata, ma non è che serve il programma Spiagge Sicure, servirebbero controlli nei capannoni dove si produce questa roba, Antonia. Però forse dalle telefonate penso di poter dire che la pensiamo così alcuni, ma molti altri la pensano diversamente. Grazie. Marilena dalla provincia di Piacenza. Pronto? Prego. Salve dottore, buonasera, complimenti naturalmente per la trasmissione. Io quando sono salita in macchina ho telefonato perché parlavate dei delfinari e dei zoo. Posso fare un'altra precisazione prima però? Pronto? Dica. Posso fare prima un'altra precisazione? Siccome sono una commerciante ambulante e lavoro su aree pubbliche. Sì? Di cosa commercia? Io vendo tovaglie, per cui non do fastidio. Ambulante nel senso che i mercati, quelli del sabato. Il mercato dei mercati, sì, giornalieri, eccetera. Sì. È chiaro che ci sono problemi ben più gravi. Fermo restando che tutti dobbiamo lavorare, tutti devono mangiare, tutti devono sopravvivere. Per cui io non è che sono contro chi fa il Vucumpra o quant'altro, certamente però che queste cose vanno monitorate. E ovviamente noi abbiamo un mercato dietro, sotto i portici, che contrasta con quelli invece che sono ambulanti, che pagano i plateatici e costano cari, che pagano i rifiuti anche se non ne facciamo, che pagano l'INPS, che pagano l'IVA, che pagano le tasse, contro quelli che sotto i portici invece sono abusivi, vendono mercanzie che ritroviamo invece nell'area mercatale, e è chiaro che uno non è contento che ci sia l'abusivo che non paga niente, e però che ci sia invece quello che ha l'autorizzazione ed è massacrato da tasse e quant'altro. Ecco da dove nasce secondo me questa diatriba fra Sicuramente questa è la radice più importante, non è tanto la questione delle spiagge sicure, è più la questione che sta dicendo lei, che abbiamo già tra l'altro affrontato. Meglio che vendano le borse che vadano a spacciare la droga, per carità di Dio, perché poi fanno anche queste di cose, no? Va bene. Intanto grazie, devo dare un aggiornamento. Arriva su Twitter Elisabetta che ci dice: Giovanni Paolo II ammise che gli animali non sono privi del soffio divino, virgolettato. E quindi abbiamo una notizia anche da questo punto, cioè una notizia, insomma, un elemento in più per discutere. Sergia dalla provincia di Trieste. Salve, buonasera. Buonasera. Per la serie parlano bene e razzano male. Volevo rispondere al signor Roberto. quello che era intervenuto riguardo agli animali. Sì. Ecco, io mi ero rivolta alla LIPU, la Lega Italiana Protezione Uccelli, perché avevo un problema con la nidificazione dei piccioni nel mio palazzo quando abitavo in centro a Trieste. C'erano troppi piccioni che facevano il nido. E praticamente mi producevano guano nel terrazzo dove avevo la porta finestra della camera di mia. Che quello sì, lo ha detto anche Roberto, è porta malattie. Esatto. E quindi che, come è andata a finire? E che io mi sono rivolta ai vigili urbani che mi hanno indirizzato presso la Lega. Sì. E ho chiesto di intervenire, non so, con la rimozione dei nidi, perché mio marito voleva fare una strage. Io ovviamente l'ho bloccato. Suo marito aveva intenti bellicosi. Come voleva fare la strage? Non so, portando via tutti i nidi e poi buttando la candeggina, insomma ci sono vari metodi, insomma, un pochino cruenti. No, io mi sono rivolta alla Lega e praticamente non sono intervenuti. Mi hanno solo detto, lei non può fare nulla perché di personale non può intervenire. Ho detto, intervenite voi. Assolutamente noi non siamo atti a poter intervenire e a provvedere. Quindi di conseguenza mi sono trovata a dover provvedere. Cioè, quindi ho capito, insomma, lei si ricollega al discorso che è stato fatto, il farmacista di Milano avrebbe dovuto chiamare le associazioni, ma stando a quello che ci raccontate, le associazioni non sempre aiutano e rimangono poi con le mani in mano. Va bene, Sergio, dobbiamo chiudere qua. Grazie anche a lei, grazie a tutti gli ascoltatori che sono intervenuti questa sera. Facciamo una pausa per il Ferragosto, ci sarà una puntata registrata con il meglio di si può fare e quindi ci risentiamo poi lunedì in diretta. Grazie a tutti. Tutti, Andrea Piana, Camilla Tomadini, Lorenzo Nespoli, Marco Lombardo in redazione, la grandissima redazione di Si può fare, insieme a me, Alessio Maurizio, insieme a Fabio Cantadori che era in regia anche questa sera. Buona serata, buon Ferragosto, buon weekend, state tranquilli, ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao, ciao!